ma io sto calmo, ma io sto calmo, io ti ascolto tutte le sere e a volte io faccio il camionista, se ti avrei mezzo alle mani a polpette ti farei a te, tu hai curato becchino da parenzo, te. La Zanzara. Possiamo andare da una cosca a comprare i voti. Lo sportello è qui vicino, stan facendo gli sconti. Saranno 50 euro a voto, lo vedi a un buon prezzo. Corri presto, vai Zambetti, siamo tutti con te. Eccoci qui, e Formigoni non si dimette, riduzione della giunta e rimpasto, resiste, ma sentite cari ascoltatori, carissimi ascoltatori della Zanzara, buonasera Parenzo, buonasera. Sera, direttorissimo, buonasera, allora, da Trieste, sì, diciamo. Sì, dopo lo diciamo, sì, dopo lo diciamo, fammelo dire a me, sono io che comando, non tu, aspetta un attimo. Allora, sentiamo quelli della Lega, gli elettori, gli ascoltatori, il popolo, il popolo della Lega, cosa dice di Formigoni e del signor Zambetti? Del signor Zambetti. Senti cosa dice il popolo della Lega a Radio Padania. Sì. Deve rendersi conto che o fa un rimpasto di giunta totale, radicale, e si libera di tutte le cricche, abbiamo pure terroniche che si sono infiltrate, oppure cadrà. Con le ultime dichiarazioni di Formigoni, il diacono falso, si vede che il PDL proprio non è affidabile per niente, staccare la spina subito. Mi auguro che Zambetti marcisca in carcere per i prossimi, fino a quando ha un soffio di respiro. E questo è solo l'antipasto, cari ascoltatori, giudizi molto severi da parte della Lega. I garantisti della Lega. La Lega però ce l'ha abbastanza moscio con Formigoni, perché ha detto, beh, rimpasto e voto ad aprile. Forse. C'è il rimpasto, ma non si dimette Formigoni. Per no, cui, nulla da fare. Dice Formigoni, ci sarò sempre io, ma ci sarà una forte discontinuità. Mi fanno impazzire questa parola della politica, ci sarà una forte discontinuità. Come il presidente eletto sono io e voglio dare una risposta ai cittadini lombardi, ci sarà una forte discontinuità che metterò in atto già nei prossimi giorni. E beh, certo che ci sarò sempre io. Una forte... No, una forte discontinuità. Un contrattino, possiamo andare da una cosca a comprare. Beh, certo, faremo grandi riforme ai giorni Lombardia. Anche Berlusconi è d'accordo sulle altre regioni, non è un ricatto. Ma come non è un ricatto? Se tu dici, se mi fanno fuori cadono anche Piemonte e Veneto, è un ricatto, sì o no? Vuol dire che Formigoni ha parlato con Berlusconi e ha detto, se mi fanno cadere, tutto il resto è un cade. Ricatto politico, diciamo. Beh, però si chiama ricatto. Sentiamo. Questa posizione, se cade la Lombardia, cade anche il Veneto, cade anche il Piemonte, lei l'ha concordata con la segreteria nazionale del PDL, cioè con Alfano, con Berlusconi? Ma è chiara da tempo ai leghisti, è chiara da tempo, come le dicevo, cioè ci sono parole chiarissime di Berlusconi nel corso di questi mesi, parole chiarissime di Alfano, ma non è un ricatto, una ripicca, vorrei che sia molto chiaro. Corri presto. Il bello poi che dice, ho fatto giurare due volte i miei assessori sulle questioni che riguardano la criminalità. Non è che basta far giurare davanti a lui. Ma no, ma neanche, cioè, dire, non è tutto CL. Allora, sentiamo. Dice... O è un abbaglio incredibile della magistratura, ma mi sembra proprio di no, oppure Zambetti è uno spergiuro che ha tradito la fiducia di tutti noi, perché nell'ultimo anno io ho fatto giurare due volte i miei assessori di avere la coscienza assolutamente limpida. Lo vedi un buon ho fatto giurare due volte i miei assessori di avere la coscienza limpida. Beh, però riconosce la bontà dell'inchiesta. Cioè, sì, dice che questo è importante. Non mi sembra proprio che sia un abbaglio della magistratura. Dice che è un'inchiesta. Però sentiamo seria. Salvini cosa diceva, il capo della Lega in Lombardia. Dice, ho in tasca le dimissioni perché non c'entriamo un cazzo con la 'ndrangheta. Sono orgoglioso di essere il segretario della Lega che ha in mano le dimissioni di tutti i consiglieri, di tutti gli assessori della Lega, a disposizione del Movimento, perché noi con l'Andrangheta non c'entriamo un cazzo e non vogliamo avere niente a che fare con gente che piglia i voti da quelle parti. Oh Fiorentina, di ogni squadra ti vogliamo regina, oh Fiorentina. Fiorentina. La famosa disfida di Firenze tra Renzi e Marchionne, ormai è guerra aperta, soprattutto tra i fiorentini illustri e il signor Marchionne. E te credo, le ho Devo dire che io questa volta, siccome al contrario di quello che tu dici, non ho il prosciutto sugli occhi e non ho pregiudizi, sono assolutamente dalla parte dei fiorentini. Ma ti credo, ha detto una bestialità talmente che grande. Cosa ha detto? Che Firenze è una città piccola e povera. Una cosa di governa una città piccola e povera. Ma una cosa assurda. Su, Marchionne, io ho la tua statua a casa, il tuo busto a casa, che lucido buttalo, ogni tanto. Ma buttalo, non lo butto, che vergogna, lo lucido sempre, però non mi costringere a metterlo nello scantinato, non mi costringere a metterlo in cantina. Mettilo in Svizzera, no? Dove lui paga le tasse. Ma io mica ci vado. Porta il tuo busto in Svizzera. Ma non ci vado, io davanti, come i nanetti da giardino, davanti alla casa di signor Marchionne. Per cui non mi costringere a metterlo in cantina. Io voglio continuare a lucidare sto busto, perché tu sei un grande rivoluzionario. Se ti piace così. Sì, mi piace moltissimo. Un grande rivoluzionario. Stai zitto. Un grande rivoluzionario. Però non mi costringere a metterlo in cantina, questo busto. Renzi, prima di parlare di Firenze, Marchionne si deve sciacquare la bocca. Se Marchionne ha voglia di prendersela con me, lo faccia, ma cortesemente, prima di parlare di Firenze, sì, come si dice dalle nostre parti, si sciacqui la bocca, perché Firenze è una città di un valore e di una bellezza universale riconosciuta in tutto il mondo. Vabbè, questo è abbastanza scontato, Però abbiamo due grandi esclusive della Zanzara. Ah, caro cosa ha combinato? Le grandi esclusive sono signor Zeffirelli. Beh, maestro Zeffirelli, grandissimo, maestro. Grandissimo. Senti cosa dice di Marchionne, partiamo. Sì, Zeffirelli. Ma poveretto, non sa neanche lui cosa dice. Si copre di ridicolo, perché veramente Firenze merita critiche di ogni genere, ma rimane una delle più straordinarie città al mondo. Mai avuto una Fiat, un poveretto ha detto, che si copre di ridicolo, tra parentesi. Mai avuto una Fiat, vabbè, questo chi se ne frega, però, mai avuto una Fiat. E la Fiat in mano a Marchionne come la vede? Non ho mai avuto una macchina Fiat. E poi dice anche stupido e maleducato. Un'altra grande fiorentina che però abita qui a Trieste, dove siamo noi, sì, che si chiama Margherita Hack, dice grande... L'astrofisica. Grande imbecille, senti. L'ho trovato da grande imbecille, proprio. Ho pensato, povera Fiat, in che mano tu sei abitata. Infatti si vede. Sono fiorentini un po', come dire, no? Un po' vecchiarelli, però imbecille. Viva la vecchiaia. Ma è imbecille, c'ha ragione. 800-24-00-24, la Zanzara è diretta da Trieste, dalla sede della Maratona d'Europa, dell'Hotel Savoia. Excelsior, dove questa sera Excelsior noi riceveremo. Vabbè, questo è un altro discorso. Un grande premio, le cuffie d'oro. E con noi Sara Giudice, buonasera. Buonasera a voi. Ah, l'Antiminetti sarebbe la signora Sara Antiminetti, sì, Antiminetti. Te la ricordi che disse non bisogna candidare la Minetti, eccetera. La conosco anche da tempo, e quello che leggo sui giornali mi ti preoccupa? Mi preoccupa. Perché ti preoccupa? Mi preoccupa perché sai. Perché avrebbe ricevuto voti, pur non essendo stata eletta, da parte di personaggi legati all''Ndrangheta, no? Però, la conosco. Tramite il padre. Più che la preoccupa, lo dica, la stupisce quasi al limite da crederlo impossibile. Dico quello che penso. Se uno deve credere certe cose di altre persone, però siamo nel campo delle indagini, appunto, uno, noi non mettiamo la mano sul fuoco per nessuno, no? Ma assolutamente, neanche per me stesso. Però adesso, per carità, però, voglio dire una cosa, ha sentito la Minetti che ha detto ti capisco, ti trattano come me, sei stata messa nel tritacarne mediatico come me, come risponde la signora Minetti? Beh, è stato un bel gesto, no? O no? No, guardi, molto meglio di quello di molti altri. Detto questo, le lotte si fanno sempre sulle idee, mai sulle persone, quindi lei sa che la mia Minetti, lotta... La Minetti è stata meglio in questo caso di tanti altri, chi? No, di tanti, la sua risposta è stata molto meglio di tanti altri, voglio dire. Ma tanti altri devo chi? Riconoscere che è stata elegante. Devo cioè l'accetta la solidarietà della Minetti, le piace la solidarietà della Minetti? Io non condivido niente di quello che pensa Nicole Minetti politicamente. Detto questo, la sua risposta umana è stata molto meglio di quella di molti altri. Che, come lei sa, in politica spesso gli sciacalli sono sempre molto in agguato, no? Sì, certo. Detto questo, voi avete seguito tutta la mia storia, sapete chi sono, sì, mi avete visto, e quindi insomma io sono solo contenta di parlare con voi, di dirvi se volete. No, certo, però una voglio restare su questa cosa, la Minetti. Dunque, poi lei è rimasta stupita da questa solidarietà che lei ha espresso dopo la signora quello Minetti. Che lei ha detto sulla signora Minetti, certo. No, ma ripeto, le lotte si fanno sulle idee. Io non ce l'ho mai. Se si fosse chiamata. Perché non la chiama Maria per telefono? Rossi. Perché non la chiama ma volentieri, per telefono? Guarda, se avessi il numero la chiamerei volentieri. L'ho detto proprio oggi tra amici. Ho detto, ma se avessi il numero la chiamerei comunque per ringraziarla. Beh, le diamo il numero noi, guardi, 335. No, a me non dare il numero della Minetti in giro, ma sei impazzito. Vabbè, mi ha mandato un messaggio dopo. No, però è una cosa che possiamo fare. Sembra un po' una carrambata, però intanto facciamo questa celebrazione. Potrebbe essere curioso. Però potremmo fare una telefonata in diretta tra la signora giudice e Nicole Minetti. Non è male come cosa. No, magari ci confrontiamo anche finalmente su... No, vabbè, adesso quello. No, però sarebbe interessante una cosa di questo. Beh, possiamo provare. Scusi subito. Un attimo, però mi dica la verità. Lei mette su suo padre mette la mano sul fuoco? No, non è questione. Guardi, se mi dà qualche minuto di tempo, non è assolutamente questo il piano. Non si tratta di una figlia che per amore del padre dice io metto la mano sul fuoco. Qui beh, si tratta... anche ci può stare. No, ma no, non è questo il piano, perché altrimenti sarebbe facile il gioco di dire tu sei la figlia, quindi devi per forza che credi a suo padre. Premesso che secondo voi un padre mette una figlia nelle mani dell'andrangheta. No, no, magari non era consapevole, però magari ha chiesto lo stesso dei voti. Che non fosse consapevole della persona che avessi di fronte, che si è presentata sotto falso nome, sì. È qualcosa di ufficiale, è stato detto. D'accordo. Anche... Ma è vero che ha chiesto dei voti per lei, sì o no? No, mio padre non ha chiesto. Questa persona, che è la stessa che è stata messa in carcere ieri perché vendeva voti in cambio di denaro da parte del Popolo della Libertà, è la stessa che sarebbe, secondo l'accusa, venuta a chiedere a noi del denaro, a offrire a noi dei voti in cambio di ipotetici... come dire, favori futuri ad una ragazza di 27 anni che favori a suo padre. Mio padre mio padre non sarebbe più stato consigliere comunale né presidente, ma secondo i giudici niente, sì, quindi... perché lui era presidente o non mi sono quello non è secondo i giudici, quello è secondo i giornali, perché mio padre a maggio del 2011 non sarebbe più stato presidente di quella società, quindi non avrebbe potuto garantire proprio nulla, ma neanche guardi. Vabbè, d'accordo, lei dice questo, però perché parla di complotto? Io vi faccio vedere le carte, non è che... No, certo, perché parla di complotto lei? Cioè, chi l'ha ordito questo complotto? Chi è il burattinaio? Io se lo sapessi mi difenderei meglio, probabilmente. Io dico solo, facciamo insieme un ragionamento. Secondo voi la criminalità organizzata ha interesse ad andare da una ragazza di 27 anni che in quel momento stava combattendo, comunque sarei stata io in consiglio comunale, quindi io dovevo garantire, io dovevo garantire poi, come dire, questi appalti a loro. Una ragazza di 27 anni che in quel momento stava smontando un sistema di potere in Italia, dicendo al di là di questo, la cosa che io voglio candidata in una lista civica. Sì. Fuori quindi quella che sarebbe stata la giunta, la maggioranza. Ma allora non interessava lei, interessava suo padre. Le zanzare di casa mia si nutrono di me. Eccoci qui in collegamento con noi Sara Giudice, che durante, prima e dopo le elezioni regionali in Lombardia, regione sotto gli occhi di tutti in questo momento, fu considerata l'anti-Minetti perché protestò per la candidatura successivamente per le elezioni di Minetti. Una grande battaglia culturale, giusto? Vabbè, oggi è coinvolta invece in prima persona in una vicenda che sta spiegando sui giornali, alle radio, in televisione, eccetera, eccetera. L'accetta lei l'ironia? C'è una bravissima giornalista, commentatrice che si chiama Lia Celi, molto cara brava, signora giudice, che twitta in continuazione, che su Twitter ha scritto una cosa, magari la farà sorridere, coinvolta anche Sara Giudice, l'anti Minetti, una eletta grazie alle cosche, l'altra grazie alle cosce. Non è male, però. Su. No, beh, comunque non l'accetto perché... Vabbè, ma è ironia, ovviamente. Su. Vabbè, ridiamo, però poi, insomma, qui c'è la mia vita in ballo, no? C'è, no, certo. C'è il mio nome, queste cose. Scusi, perché non possiamo, perché noi ma non possiamo parlare... Guardi, lei, siccome lei lo sa quanto mi è costata questa battaglia, sia in termini, di pressioni psicologiche, di tutto quello, di tutte le ritorsioni che ho avuto dopo, del lavoro che non sono mai riuscita ad ottenere, perché uno si presenti davanti a un'azienda dicendo io sono quella che ha rotto le balle al partito più importante d'Italia, no? Beh, quindi, adesso non mi dirà però, che lei per quello non è riuscita a trovare lavoro, guardi, perché il PDL gliel'ha impedito. No, non dico che il PDL me l'abbia impedito, dico che è molto complicato perché quando ci sono degli interessi di poteri forti e una persona si mette contro questi poteri forti, la gente ha legittimamente paura che qualcuno... se una che rompe le scatole. Ma scusi, giudice, qualcuno ha detto esplicitamente no, non ti prendo in questa azienda perché hai... Sapete hai cosa scatole, mi hanno detto? Volete sapere cosa mi hanno detto? Mi hanno guardato in faccia e mi hanno detto ma tu perché stai cercando lavoro? Ma tu non sei quella che ha fatto tutta quella battaglia? E perché stai cercando lavoro? Come a lasciare intendere? Ma scusa, ma tu non hai un giro, no? Di conoscenze, vabbè, di favoritismi. No, io sono una ragazza di 27 anni che tra un mese ha un contratto in scadenza e che quindi è a casa e non sa cosa fare. Giugi, e che io voglio ritornerà. Capire una cosa. No, ma qualcuno per dire, le ha detto io non la prendo perché lei ha rotto le scatole a Berlusconi, sì no, o no? Vabbè, certe cose non è che c'è bisogno di dirle, sicuramente c'è scetticismo, cioè di fronte a una, scusi, alla figura, perché non di possiamo parlare con suo padre? Perché lei, perché non possiamo parlare con suo padre? No, ma ci mancherebbe altro, mio papà è, voglio dire, è la persona più disponibile di questo mondo. Beh, sentiamolo, dai. Lo possiamo chiamare? Però io vi dico, evitiamo i teatrini, no? Cioè, noi siamo fatti per fare teatro, io, qui, non è che stiamo facendo... Ma rendo conto, però, tutti. Cercate di, cioè, di, come dire, di, avete sempre sentito me, mi conoscete me, sapete che persona sono, accontentatemi. Ma oggi è importante di, anche questa sentire sera di la non voce fare del padre. No, no, teatrino, teatrino. Però, scusi, anche suo adesso, padre adesso che... facciamo un numero di telefono, così siamo più tranquilli tutti. Ma non dovete chiamare la Minetti, ma dovete chiamare mio padre. Adesso chiamiamo suo padre, prima, poi la Minetti, del la Minetti viene dopo, adesso suo padre. No? Comunque è protagonista di questa, avrà qualcosa da dire, no? Anche lui, su tutta la vicenda. Ma... Sentiamo. Squilla o no? Eccolo qua, squilla. Pronto? Signor giudice? Pronto? Signor giudice? Sì. Vincenzo Giudice, buonasera. E la Zanzara? Radio 24, Cruciani Parenzo, come sta? La disturbiamo? Malissimo. Io non lo sento. La disturbiamo o no? Pronto? Ci sente? Appena, ma la sento. È Radio 24, la Zanzara, giudice. Ah, va bene. Senta un attimo, c'è sua figlia collegata con noi. Bene. La tranquillizzo subito. Ma è la voce di suo padre, signora Sara Giudice, perché non vorremmo io sbagliarci. Io non la sento però la voce di mio padre. Perché ormai è al solito. Ciao, Sara, qui. Bacione. Un bacione. Giallo. Ma dove scusi siete? Un attimo, mi dica subito una cosa. Siete proprio i soliti, guarda. Ma certo che siamo i soliti. Signor giudice, noi vogliamo solo sapere una cosa. Non vogliamo fare teatrino perché è una cosa naturalmente importante, un'inchiesta, per carità. Io voglio capire semplicemente da lei. Ha mai chiesto voti per sua figlia a imprenditori? Lasciamo perdere la questione dell'Andrangheta, perché è chiaro che lei non si rendeva conto di chi erano queste persone. Lei si è messo mai d'accordo per far ottenere a sua figlia dei voti? Io ho cercato i voti per Sara in tutti i mercati di Milano, sui gazebo, nei banchetti, attraverso gli amici, la mia famiglia, i miei conoscenti, il mio panettiere. Questi sono i voti che ha preso Sara e ha preso i voti della gente che ha condiviso la sua battaglia. Questi sono i voti. Lei non è mai entrata in contatto con le persone che poi sono finite in galera, eccetera, eccetera, come dicono i giudici? No, dall'avviso di garanzia, lo dico perché è un avviso di garanzia, sì, risulta che un signore sotto falso nome si è presentato a me come avvocato Tizio Caio, avvocato. Sì. E che voleva? E ha detto: noi condividiamo la battaglia che ha fatto Sara, vorremmo aiutarla. Questo mi ha detto. Ho capito, poi c'è stato, secondo i giudici, leggo qua oggi da Repubblica, l'accordo prevede la raccolta di voti a favore della figlia a fronte della promessa concreta di assegnazione preferenziale di appalti e lavori pubblici, eccetera, eccetera. Questo spero di chiarirlo più presto con la magistratura, non c'è stato nessun accordo, non c'è stato nessuno scambio, non c'è stato niente di niente, se non un contatto come è avvenuto con centinaia di persone che si sono detti ma non solo da Milano, da tutta Italia. Sì. Dicevano, cioè, normale, come possiamo aiutare Sara? Cioè, come possiamo aiutare è normale Sara? Che un gruppo di imprenditori dica: noi abbiamo, che so, 100 voti, glieli portiamo. Ma no, mai detto è il 100 voti. Mai noi ha detto: vogliamo aiutare Sara perché condividiamo la sua battaglia. Io ho detto: se volete farlo, vi ringrazio. Non si è mai parlato di appalti o cose mai, di questo tipo? Con me, mai. Non so se qualcuno ha millantato con questa persona di altre cose, ma con me personalmente, mai. Mai un accordo, non c'è stato mai un accordo. Mai. Mai. Ma grazie. Secondo voi io avrei fatto qualcosa per mettere minimamente in difficoltà mia figlia? Non stiamo parlando di una persona strana, è mia figlia. Io darei la vita per i miei figli e per la mia famiglia. Io avrei fatto qualcosa per mettere in difficoltà mia figlia? Grazie. Pubblicità, giornale radio. Sempre Zanzara Party, qui in diretta da Trieste, dove questa sera la Zanzara verrà premiata, incoronata. Come caro Parenzo, le cuffie d'oro. Diciamolo ogni tanto, diciamolo. Premiati ancora una volta, numerosissimi premi quest'anno dedicati basta adesso, alla Zanzara. Non allargarti. Però siamo a Trieste, la grande città che ha dato i natali al signor Saba, e io per questo voglio ricordare una delle sue grandi poesie. Ma perché noi non siamo, una poesia di Saba. Non siamo solo la trasmissione dove si fanno rutti, scoregge, dove si insultano i politici, anzi si intervistano, ma si parla anche di culture. Allora ecco a voi la poesia La capra. Ho parlato a una capra, era sola sul prato, era legata, sazia d'erba, bagnata, alla pioggia belava. Quell'uguale belato era fraterno al mio dolore, ed io risposi prima per celia, poi perché il dolore è eterno. A una voce non varia, questa voce sentiva gemere in una capra solitaria, in una capra dal viso semita sentiva querlarsi ogni altro male, ogni altra vita. Capre, capre, capre. Nel mio spazio sotto il salice, salice. Titoli del TG3. Buonasera a tutti. E adesso i titoli del TG3 di Bersani. Il filmato shock trasmesso da chi l'ha visto del bimbo preso a forza dalla polizia a scuola. I presidenti delle camere Schifani e Fini chiedono chiarimenti. Unanime sdegno e commozione, il capo della polizia Manganelli esprime profondo rammarico e porge le scuse ai familiari del bambino. Aperta un'inchiesta. Caos alla regione Lombardia, Formigoni promette, giunta azzerata, forte discontinuità, ma io resto. Lungo vertice a Roma con Alfano e Maroni. L'arresto dell'assessore Zambetti, dalle intercettazioni la figura di un uomo asservito all'andrangheta, l'interesse delle cosche per gli appalti dell'Expo 2015. Napolitano alle regioni, serve un immediato intervento legislativo per stroncare il malcostume e l'abuso del denaro pubblico, enti locali da riformare, non da liquidare. Al Senato primo voto sulla legge elettorale, l'asse PDL, UDC e Lega impone le preferenze, contrari PD e IDV, sistema assurdo in questo clima di degrado. La BCE con la crisi in Europa ha bruciati 4 milioni di posti di lavoro, disoccupato un greco su 4 e Spagna declassata da Standard & Poor's. La zanzara è quell'odioso insetto che non mi fa dormire la notte. Giunto, cari ascoltatori, un amico che fra poco vi presenterò con calma, perché è arrivato in anticipo, stranamente in anticipo. Claudio Magris, grande intellettuale. No, non è un intellettuale, è un imprenditore, perché bisogna per forza invitare intellettuali alla Zanzara. No, perché siamo a Trieste, Saba, Italo Svevo, che però è morto, il grande Paolo Rumiz o il grande Claudio Magris. Vabbè, però mettetemi la sigla di Vendola, perché come al solito è il top oggi, il top di Vendola, che non si capisce assolutamente nulla quando parla, diciamo la verità. Sigletta. Dopo la presenza. È la terra che scorre nel sangue delle mie vene, sangue spesso però raggrumito dalla barbarie dei poteri forti, dal malcostume mafioso, dal clientelismo, dal dispotismo e dal bigottismo. Beh, Vendola, ma che stai a dì? Sentite qua, Berlusconi ha narcotizzato la crisi, ci sono cliniche piene di maschi per la plastica. Caro Vendola, perché bisogna... cliniche piene di maschi con la plastica, ti risulta? Non lo so, sentiamo. Quando cominciava a esplodere la crisi, Berlusconi cominciava a narcotizzarla, a nasconderla, a occultarla, a dire che la crisi è frutto soltanto della propaganda apocalittica dei giornalisti e dei comunisti. La nascondeva, diceva, i ristoranti sono pieni, cliniche private sono piene di maschi che vanno a farsi operazioni di chirurgia plastica. Lui aveva raccontato l'Italia come se fosse Portocervo, come se fosse il billionaire, e invece l'Italia stava sprofondando. Questo in realtà è un po' più serio come discorso, non è una vendolata, non è una vendolata. Però c'è un'altra cosa che dice a un certo punto: malaffare figlio di Berlusconi, il superomismo del potere. Il malaffare, diciamo, è figlio soprattutto di una cultura egemone nella società italiana, quella roba che abbiamo chiamato berlusconismo, cioè un rapporto disinvolto tra il pubblico e il privato, tra la dimensione pubblica e la dimensione privata, una sovrapposizione continua e anche una danza del denaro attorno al potere, non solo del denaro ma del suo feticismo, della sua capacità di conquistare diciamo ogni status symbol per il superomismo. questo è top, eh? La danza del denaro per il superomismo del potere. Maurizio Zamparini, buonasera. Eccolo vicino a noi. Buonasera, buonasera a voi. Come presidente del Palermo, forse presidente della Triestina fra qualche tempo. Che ne so, vuole comprare la Triestina? Presidente del Movimento per la Gente. Vabbè, quello sì, quello lo sappiamo, no, naturalmente. Poi... è la cosa più importante. Ma non posso sentirlo, Movimento per la Gente. Perché, che c'è qualcuno che fa un movimento contro la gente, scusami Zamparini. Questo è vero. No. Sì, sì, sì. Cioè, tutti questi politici. Tutti i nostri... Il coglione tutte le nostre istituzioni, tutti i nostri politici, ma no, ma so, tutto quello che abbiamo in Italia è contro la gente. Scusi un attimo, è vero che vuole comprare la Triestina? No, è vero che vuole comprare la Triestina? Me lo dica, no, se... non sì. è che voglio comprare la Triestina. La Triestina in questo momento è in difficoltà, è in dilettanti. Siccome sta passando in, in Lega la possibilità per le squadre italiane, come le vuoi per quelle spagnole, di prendere un, dei club satelliti fino alla Serie C e alla Serie B, lo vuole comprare? Io sono disposto ad aiutare la Triestina. Perché... quanto le costa l'operazione? Ce l'ha giocato la Triestina? Zero. Quanto potrebbe zero. Ma chi è che mette? Oggi una squadra. Se oggi vuoi comprare, se vuoi comprare una squadra di Serie B a zero lire, te ne do l'indirizzo. No, non valgono niente. Io ho regalato il Venezia 15 anni fa, però. Anche... allora, voglio comprare la Triestina a zero lire, questa è la, a zero euro. Questa è la... ma come zero? No, come non è zero euro. Bisogna, poi bisogna investire, certo, è chiaro. Bisogna portarla su. È quello... certo. Dunque, voglio comprare la Triestina. Ma io non compro la Triestina. Il Palermo può supportare una società satellite, lasciando a un Triestino che faccia il presidente della Triestina. Vabbè, però la proprietà è i sua, locali però. Del Palermo Calcio. Vabbè, che è sua. No, non è mia. Ma il Palermo lo vuole vendere? Lei? Magari, non c'è nessuno che lo vuole. Ah, magari. Ma gli arabi non lo vogliono comprare? Gli arabi? Stiamo trattando, vediamo. Con chi? Ma quante possibilità? Non può comprare, vogliono entrare dentro. Ma pure comprare. Berlusconi vuole vendere Milan, pare, ai russi. Oh, sembra, ci sono alcune indiscrezioni. È possibile, secondo lei? In questo momento qui tutti, vedo che Moratti coi cinesi, Berlusconi coi russi, lei io con gli arabi. Per cui... tutti cercano di disfarsi di questa diventiamo terra di conquista. Fatemi quel numero di telefono, regia, fatemi quel numero. Fatemi quel numero, regia. Intanto Luca dalla provincia di Brescia, buonasera. Un assaggio buonasera. Di Zamparini questo qua. Luca, dica. Ascolti, anzi ascoltate. Io volevo dire che ho votato la Minetti alle elezioni. Ha votato la Minetti, in realtà non l'ha votata la Minetti perché non ha avuto la possibilità di chiamarla. Un attimo solo. Buonasera, sono Vlado, come posso aiutarla? Buonasera, volevamo parlare con il signor Signorini, sì, per favore. Sì, Radio Monte Carlo, buonasera. Un attimo solo, attenda. Sì. Ecco. Piccola bischerata, diciamo. Stiamo chiamando in diretta Alfonso Signorini nella sua stanza d'albergo, nel suo albergo di Trieste, spacciandoci per altri, ovviamente. Pronto? Sì? Sì? Non mi risponde in stanza. Ah, mannaggia. Possiamo fare un ponte? Posso darci un'occhiata se lo vedo qua nella rossa, attende un attimo. Sì, grazie. Ecco, sì, è abbastanza okay, urgente. Grazie. Grazie. Luca, dica, Luca. Io volevo dire che comunque era evidente che la Minetti era nel listino con Formigoni e chi non voleva votare per la Minetti poteva non votare per Formigoni. Comunque... io volevo solo dire sì, no, ma lei ha ragione, si poteva non votare il listino, non votare la Minetti, esatto, però lei non ha avuto la possibilità, esatto, di scegliere la Minetti perché è stata messa nel listino. La Minetti è stata eletta, non accetta la democrazia perché i listini non erano segreti, erano pubblici e le polemiche sono iniziate ben prima delle elezioni, certo, regionali. Va bene, inoltre, Luca, grazie. Vincenzo, pronto? Inoltre cosa? Pronto? Pronto? No, guardi, qui non la vedo, Nero, non c'è. Non c'è. Vabbè, immagino, dopo richiamiamo un attimo in stanza. Ma chissà dove è andato, guarda. Grazie, molto gentile. Vincenzo da Napoli, buonasera. Eccomi qua, buonasera Cruciani. Dica. Siamo per Marchionne contro Firenze. Anch'io ritengo che Marchionne guadagni tutti quei soldi, se li merita, perché uno che si compra una piccola fabbrica italiana e si compra un colosso americano, peraltro senza soldi. Pertanto ritengo che probabilmente sia una manovra quella di Marchionne, che vuole Renzi premier. No, guardi, la roba su Firenze, contro Firenze, sì, è ridicola. Devo dire, io ho sempre appoggiato Marchionne, ho il busto a casa. Ripeto, io ho un busto a casa di Marchionne, intanto lo lucido. Busto, sì, lo lucido. Grande rivoluzionario, Marchionne. Ma rivoluzionario tutti i rapporti sindacali, grande rivoluzionario. Per me. Ho il busto a casa, ogni tanto lucido. Tutto, anche quello di Zamparini, forse fra poco mi farò. Però, la cosa che ha detto... si è toccato, beh, posso dire cosa ha fatto. Ma Marchionne è vivo, però, Zamparini è vivo. Detto per aiutare Renzi, l'ha detto no, per però, Vincenzo, scusi un attimo, però, no, che... è stata una roba che lui non voleva che uscisse, perché era davanti agli studenti, seppur arrabbiato, poi non si può arrabbiare perché naturalmente l'ha detto davanti agli studenti e qualcuno l'ha riferito, ma noi siamo andati a spulciare due vecchi fiorentini, ancora vivi e vegeti, sì, naturalmente, sì, molto più lucidi. Però gran parte lucidi del PD contestavano a Renzi proprio la vicinanza con Marchionne, il fatto che sì, lei dice che l'ha fatto apposta Italia per dare una mano a Marchionne, sì, perché vuole Renzi premier, allora gli ha fatto un piacere. Un'osservazione intelligente, ma non credo che sia così. Noi siamo andati a sfrugugliare, siamo andati a sfrugugliare Zeffirelli, un poveretto che si copre di ridicolo, Marchionne. Ma poveretto, non sa neanche lui cosa dice, si copre di ridicolo, perché veramente Fine Firenze merita critiche di ogni genere, ma rimane una delle più straordinarie città al mondo. E poi Margherita Hack, fiorentina residente a Trieste, grande imbecille. L'ho trovata grande imbecille, proprio. Ho pensato, povera Fiat, in che mani tu sei abitata. Infatti si vede. A toccare i fiorentini, ragazzi. A toccare i fiorentini. Io ci ho abitato 5 anni a Firenze. Anche a Firenze. Sì. Anche a Firenze. Chi ha fatto Firenze? C'era una delle più belle ville di Firenze. Lei? Sì. È un uomo ricchissimo, lei. Quanto è ricco? Quanto è ricco? Suo patrimonio. Una villa enorme a Firenze. Io ho venduto i francesi per 1.000 miliardi 10 anni fa, me li sto mangiando tutti, sì. Di lire. Mille miliardi di lire? E se oggi sarebbero, quanti euro sarebbero oggi? Oggi sarebbero 500 milioni di euro. Sì. 500 milioni di euro, se li ha mangiati quasi tutti. Quanto gli è rimasto di patrimonio? No, io li ho investiti in Italia, in questo paese qui. Ma quanto è rimasto? Di patrimonio? Patrimonio sono tutti 100 milioni, che ne so. Imprese, attività, non lo in so. Banca lei quanto so. Ha? Di liquidità in banca. Il conto corrente di Zamparini, quando uno va lì, privacy, fa le strade. Non è possibile. No. Ma perché tutti gli uomini ricchi dicono sono zero? Tutte... Ma perché tutti? Borsa, torniamo su. Tante aziende. Ma non è possibile, Borsa, cioè, fa l'estratto conto e viene fuori zero. Anzi, zero. In rosso. Zero. Zanzara in diretta da Trieste, 800 24 00 24. La giunta è azzerata e nei prossimi giorni procederò a una giunta nuova e ridimensionata nei numeri. Pare che pur di non dimettersi ne inventa una più di Bertoldo. Aspetta, e pare che voglia anche cambiare questa vergogna del listino bloccato solo adesso, cioè il fatto che ci sia un listino bloccato, perché in regione ci sono pure i nominati all'interno di questo listino bloccato, dove c'era la Minetti e altre persone pur ancora. Di non dimettersi un ascoltatore, poi torniamo a Zamparini. Pur di non dimettersi. Vabbè, comunque ha deciso di non dimettersi. Pur di non dimettersi. Secondo lei Formigoni si deve dimettere? Caro... Secondo me tutti i politici italiani dovrebbero andare via. Tutti. Dal primo all'ultimo. E chi rimane poi? E chi rimane? La classe nuova, voi giovani. Oppure Napolitano. Voi giovani andiamo là, occupiamo il posto e facciamo meglio di loro. Pure Napolitano? Ma Napolitano non ha mai lavorato in vita sua. Come? Mai lavorato, sempre fatto il politico. Sempre fatto il politico. Poi in un partito famoso, nel Partito Comunista Italiano, era... appoggiava i partiti i sovietici, diciamo. Beh, era l'ambasciatore, è stato anche il primo comunista. Scusi, lei, a mettere piede negli Stati Uniti. Lei è con Renzi o con Marchionne? Con Renzo. Con Renzo, cioè con nessuno dei due. Sì, è il sindaco di Firenze. Ah, le piace Renzi. Renzo, non è che si chiama Renzo. Renzo. Le piace molto Renzi? È un giovane nuovo. Meglio di altri. Cioè. Esatto, che deve dare l'esempio a tanti altri giovani che devono venire in politica. Ecco perché vanno mandati tutti a casa. Voi dovete venire in politica. Ma noi, i quarantenni. Ma voi, la vostra età, quarantenni, cinquantenni, trentacinquenni. Per un'Italia nuova, questi sono tutti vecchi da mandare via. Perché non dà un po' di quattrini a Renzi per la campagna elettorale, che pare che ne abbia bisogno? Ma penso che lui ce li abbia già. E poi i miei quattrini servono a creare posti di lavoro, non a sostenere questi politici. Vabbè, però Renzi, lei ha detto. Io ho fatto il Movimento per la Gente e già mi costa questo. Ma chi c'è il Movimento per la Gente? Il Movimento per la Gente, sto cercando di trovare quei giovani 35-40 anni in questo momento. Allora facciamo un appello, dice io Zamparini cerco giovani talenti da mettere in lista, giusto? No, diamo non il suo numero di cellulare, posso dare il suo numero di cellulare? Ancora un partito. Posso dare il suo numero di cellulare? 3-3-5. Ce l'hanno già tutti il mio numero di cellulare. Scusi Zamparini, però noi anche qui la platea qui presente era interessata al fatto che lei nel conto ha 0 euro, nessuno ci crede, o in rosso. Nel suo conto corrente. Com'è possibile? Perché così l'Agenzia delle Entrate non viene a beccarmi niente. Che senso? Equitalia. Ah, in questo senso. Equitalia, io sono, siccome la sto combattendo. Vabbè, ha le proprietà però lei. Sì, vabbè, ma le aziende, i miei figli, quasi tutto intestato già ai miei figli. Ma lei non ha mai fatto un da banco? Da tanto tempo, allora, io ho nell'azienda di famiglia l'1%, il 99% dei miei figli, ma da 15 anni. Cioè lei è un povero in canna, per dire. Sicuramente. Cioè lei no, possiamo ha le pezze al culo. No. Zero soldi sul conto corrente. L'1% di tutto quel patrimonio, me via fa. Ma questa è una paraculata per sfuggire all'Agenzia delle Entrate? No, io non sfugo a niente. Io ho detto all'Agenzia delle Entrate, siccome mi ha attaccato in maniera come sta attaccando tutta l'Italia, ho detto io non sono un evasore. Loro mi hanno detto sì, lo sappiamo che non è un evasore. Allora perché mi mandate le cartelle esattoriali? E questo è il momento per tutti, per cui. Ho capito, ma lei il conto corrente lo fa qualche volta? No, mai. E come fa? Come gira? I soldi da farsi vedere? Non ha neanche un portafoglio? Come gira? È veramente un uomo ricchissimo. Ma come ce l'ha il portafoglio o no? E come gira? Mai avuto il portafoglio? Se deve comprare delle sigarette, deve andare a... C'è il conto corrente mia moglie. Sì, ma lei quando durante il giorno avrà ad ulire ad un certo punto? Sempre, sicuramente. E chi dove li trova questi soldi? Li prendeva mia moglie dal conto. Ah, glieli dà sua moglie. Lei non ha un banco, ma non ce l'ha. Mai avuto. Carte di credito, mai. Di credito sì sui conti sì. No, ma lei ce l'ha in mano. Se c'ha una carta di credito sua? Sì, ce l'ha, no, mia personale, no, c'è le aziende. Ah, le aziende. Sono amministratore io. Comunque ha detto che vuole vendere il Palermo agli arabi, ma non ci riesce, questa è la realtà. Tina dalla provincia di Milano. Signora Tina? Pronto? Dica, signora Tina, dica. Buonasera. Deve spegnere la radio però, sennò se la sentiamo due volte. Volevo soltanto chiedere anche voi due, a Parenzo soprattutto, se non vi siete stancati come sono stancata io e magari milioni di italiani, anzi sicuramente, di sentire il presidente Napolitano che dice è una vergogna questi scandali, questi sprechi eccetera, e se non si sente lui il primo che spreca stando al Quirinale. Ecco, perché il Quirinale costa appunto più di Buckingham Palace, se non era possibile recuperare da un editoriale di Montanelli che fece al primo mandato Ciampi il fatto che dà un consiglio al suo caro amico Azeglio di lasciare libero il Quirinale, che la Casa Bianca al suo confronto è una tranquilla villetta di campagna. Ho capito, Tina, lei ha ragione dicendo che anche il Quirinale ci costa troppi soldi, bisognerebbe risparmiare anche sul Quirinale. Benissimo. Lino da Modena, buonasera signor Lino. Buonasera. Sì. Che vi dico che siete bravi, perché siete molto bravi. Vabbè, ma non molto ce ne frega niente, però va bene lo stesso. No, ma lei fa bene a dircelo, io rispondo come di prammatica, vado avanti perché i miei complimenti mi fanno rompere. Benissimo, allora io sono appassionato di automobilismo, sì. Ho una passione essendo modenese, e la cosa che ho notato in vari programmi televisivi è che tutti i nostri politici, che non mi sono simpatici, non hanno mai una vettura italiana, sempre Audi, Mercedes, BMW, addirittura i pulmini della scorta, anche quelli sono o Volkswagen o Mercedes. Ma è possibile che abbiamo delle ottime macchine, noi questi qua, che si dicono tutti lì per il favore della nazione, addirittura quando si tratta di usare un'automobile vanno a comprare l'automobile straniero o hanno comunque un'automobile straniero. Vabbè, questa è una vecchia questione. Zamparini, lei che auto usa? Ottime, direi. Direi di no. Un po' di meno, ecco. Cioè, ma Marchionne, lei come lo giudica Marchionne, che adesso spara su Firenze? Grande capitano ogni tanto dice che in Italia non si può investire. Ma io della Fiat non ho una buona impressione, perché è un'azienda che ha sempre vissuto sui soldi pubblici e non ha mai investito di suo. Per cui... No, ma come personaggio, quando vede Marchionne le dà fastidio? No, non mi dà fastidio, non lo conosco, speravo che lui in Italia facesse qualcosa di buono, non sono molto contento di quello che sta facendo quando vuole spostare tutto all'estero. Noi dovremmo tornare, anche lei avrà azienda all'estero, noi italiani dovremmo ritornare a consumare le macchine italiane, ma cominciare a produrle bene. Sì, però Zamparino dobbiamo... investe anche in Italia. No, io investo tutto in Italia. Non ha nulla all'estero. C'ho in Croazia e in Slovenia 5 centri commerciali. 5 centri commerciali? Sì. Vabbè, che vanno male, però la maggior parte perché va male, perché va male tutto, e il 95% in Italia. C'è anche in Brasile degli investimenti immobiliari fatti anche lì, però la maggior parte, però fare l'imprenditore nel nostro paese è diventato quasi impossibile. Ecco, ma Marchionne dovrebbe pagare le tasse. Abbiamo una burocrazia, per dirvi una, che per fare un parco fotovoltaico grosso ci vogliono 23 autorizzazioni di enti diversi, fra i quali le forze aeree, le forze armate, il disinquilamento. E chi più ne ha più ne mette. Qui hanno inventato per creare posti di lavoro fasulli, tutte istituzioni che non funzionano e che bloccano. Il problema non è quello che spende Napolitano, quello che spendono i politici. È la burocrazia. Il problema è che noi non siamo più capaci di produrre e non riusciamo a produrre ricchezza, produrre posti di lavoro. Quello Zamperino, manca all'Italia. Lo sa come la chiamano insieme allo Monaco, che è il nuovo grande manager? Quanto dura pure sto lo Monaco? Quanto durerà? Due mesi, tre mesi? Gli ho dato il 10% delle azioni, per cui ho voluto prendere un 10% delle azioni? Sì, vabbè, le pagherà. Quanto le pagherà? Le pagherà non molto, ma però le pagherà. Io ci ho messo dentro nel Palermo quasi 90 milioni di euro di miei in questi fino 10 adesso, anni. Fino adesso, fino adesso. Lei ha fatto un conto, 90 milioni. Sì, esatto. Che non rivedrò chissà quando, per cui sono investiti lì. Beh, è un giocato. E lo Monaco lo ritengo uno dei più bravi sul mercato italiano. Quanto vale il Palermo oggi? Quanto vale? Quanto può rivendere agli arabi lei? 120, 130? 140, 150 milioni è la mia richiesta, poi bisogna vedere quello che vabbè, se lei riuscisse a arrivare... Ma in questo momento non voglio che entri gente a pagare le mie azioni. No, ma se qualcuno le offrisse 100 milioni, lo venderebbe il Palermo, 120 subito, milioni? Domani mattina. Domani subito. Mattina, 100 milioni. Ma non esiste uno che mi dà 100 milioni al Palermo. Io vado cercando uno che investa 50 milioni al Palermo mettendoli dentro di liquidità sai che per ha detto fare Pippo la squadra Baudo? Più forte. Sai che ha detto Pippo Baudo? Che lei e lo Monaco siete franchi e in grassia. Signor Ciccio Pippo Franchi. Baudo. Il signor Pippo l'ho salutato circa a casa a Roma, penso un mese fa al massimo, sì. Sono andato a trovarlo, non lo conoscevo, l'ho trovato in gambissima e gli ho chiesto una mano per la Sicilia, anche a lui. E questa perché, è la risposta. Perché, è uno scherzo, certo. È uno scherzo che ha fatto, è una persona che stimo, sì, aveva gli stessi miei pensieri, però magari lo tirano per la giacca in tanti. Senta, lei che fine io, farebbe io fare? Stimo molto, che fine farebbe fare uno come Fiorito, questi qua che prendono il denaro pubblico, che fine li farebbe fare questi personaggi qui? Ma non è, la causa è di questi piccoli malviventi, di chi li ha messi in quei posti questo sì, sì. E sono le istituzioni sbagliate, perché sa quanti ce n'è di Fiorito in Italia, ma in tutte le istituzioni, in tutte, anche quelle non politiche. Senta, ma lei è siciliano, lo conosce? No. Lezioni di siciliano. Lo capisco. Quando le parlo? Allora, recuperatemi le cose che ha detto Michigan in quel fuori onda che lei appoggia per la corsa della regione Quando Sicilia. Lei va in giro per i mercati, nel mercato di Ballarò. Ma non ci va mai, mai ma andato. Va in giro neanche per i mercati. Ma non capisce. È il mio pubblico, è della mia gente, è quello che di Palermo amo di più. Ma non capisce. Sono un po' incazzati, recentemente sono un po' incazzati. No. Allora, se voi seguite i siti dove 100 tifosi scrivono, a Palermo mi vogliono tutti bene, perché hanno capito che sono una persona sincera, che ha dato col cuore per Palermo. Se lei viene passeggia a Palermo con me se ne accorgerà, perché non sono quelli che contestano tutto, sa, quei ragazzotti che quando sono arrivato io avevano 12 anni e non hanno visto il Palermo della Serie C dopo 35 anni. Adesso loro naturalmente sono abituati bene, vogliono tutto di più, per cui 800 24 00 24. È vero che vuole scrivere un libro sulla sua vita? Vuole? Scrivere un libro sulla sua vita? Sì, è tanto che lo penso. Sì, se mi date una mano voi che siete bravi, vediamo. Un libro sulla vita. E come lo chiamerebbe questo libro? Io Zampa, come lo vedete? No, il titolo, quale potrebbe io essere? Virgola Zamparino, un po' egoico, però sobrio, no? Un'altra esperienza. Zamparini. Un'altra esperienza non funziona. Come un'altra esperienza. Sembra una roba sui malati, un'altra esperienza. Vuol dire che... Se siamo diventati omosessuali, un'altra esperienza vuol dire che rispetto alla vita passata, siccome io credo nella reincarnazione e ho avuto diverse vite passate... Cosa crede? Reincarnazione. Ma cioè, in che senso, scusi? Nella metempsicosi. Cioè, ci sarà un altro Zamparini anche dopo? No. Quale Zamparini? Cioè, il nostro spirito adesso è incarnato in questa cassa Zamparini. E domani? Non lo so, quando saremo di là, poi sceglieremo qualcos'altro la prossima volta. Ma in cosa ma anche voi, non lo sai cos'era l'altra volta, tu e lui? Lo vado a vedere. No, vicino. Io cos'era lui, lo so. Avete fatto tanti peccati per essere castigati a fare questo. Ma lei cosa? Ma lei piace la gnocca, Zamparini? Sì. Come? Solo che sono monogamo. Come monogamo? Sì, sono da 10 anni con la mia seconda moglie, 11 anni, e io solo lei, basta. Monogamo, solo sicuro, monogamo. Sì, ho avuto tantissime donne, Prima, tante. Tante. La prima donna quanto l'ha tradita? Prima moglie, tante. Prima moglie l'ha tradita a rotta di collo. Prima moglie. Ma tutte e due. Tutte e due. Ma quante donne ha avuto in numero, in termini di numero? Quante donne ha avuto? 10, 20? No, 1.000, 1.500. Ma che 1.500? Più di Cassano. Amiche, non donne. Più di Cassano. Più ma di come? Cassano. 1.500 amiche? Sì, 1.000. Sì. Più di Cassano. Ma non è certo, è certo. Ho fatto 15 anni da single. Ma certo, 1.500. Più di Cassano. 15 anni da single. Cioè, Cassano. Non ho avuto rapporti, amiche, amicizie, donne, amicizie. Vabbè, come Cassano, più di Cassano. Quanti ne ha avute? 700. Porca miseria. Lo batte o no Cassano? Sì. No, ma io Cassano forse lo diceva in un altro senso. No, quelle nel che senso si virile, quelle che si lui sì o no, io amiche. Ma che vuol dire amiche? Che vuol dire amiche? Amiche vuol dire che le frequentavo, mi piace la compagnia quante delle donne. Quante volte fa l'amore lei, Zamparini? Adesso. Adesso. Quanti adesso, anni ha adesso? Quanti anni adesso? 71. Ecco, questo è importante per gli anziani che ci ascoltano. Cioè... e chiedo scusa per se la trovo, se trovo consenso due volte alla settimana, altrimenti due volte alla settimana. la verità no, giuro, con l'aiuto di pillole, se trovo consenso due volte alla settimana, altrimenti una almeno, ma con l'aiuto di chimici, però pilloline. da tanti anni Ma Viagra, Viagrino. Non si fa pubblicità. Chalice. Siringhette, no. Siringhette. Chalice. Mica sono l'ex presidente, che cacchio. Ma non ho capito, ma come funziona? Cioè lei lo prende dopo quanto deve, diciamo, ma consumare? Dai, che l'hai preso anche te. Sì, l'hai preso anche tu. Qua scatta la querela per diffamazione. Ma quell'altro là. Qua scatta la querela per diffamazione. Pronti, pronti a rispondere. Non l'ho preso. Mai preso. Io giuro, mai preso. Avete mi fa quella, paura. Avete su quella superbia del maschio italiano. No. Io ce la faccio senza. No, perché mi fa paura. Non so perché, non fa niente. No, è un mio pregiudizio, non fa paura. Si dà questa cosa ti fa ritornare sessualmente giovane. È una cosa fantastica, diceva. Più che fantastica. Una delle più grandi invenzioni. Diceva un grande professore, mio amico. Dopo la ruota. Grandissima persona. Dice, sai, questa 30 anni fa sì, che non c'erano queste cose. Sì. Se trovo la donna che piace fiappo, la faccio felice. Se trovo? La donna che piace fiappo. Sì. Molle. Fiacco. Molle, siamo a Trieste, sì, la faccio felice. Sì. Però io non capisco su professor Zamparini. È il numero uno. Stiamo tornando radio Osteria. No, ma solo per capirci, da quando lo prende all'inturgidimento dell'arnese, quanto passa? Poi ci vuole. No, beh, Charles dura 24 ore. Sì. Ma ci come vuole, 24 ore? Sì, 24 ore. E cosa fa per 24 ore? Ma non è così che funziona. Ci vuole l'attrattiva, ho detto. Ci vuole qualcuno che ti attragga. È chiaro. Se in un certo momento tu sbagli a prenderlo, la prendi per niente. Ma non è che vai in giro. Non lo so, le chiedo ai Zamparini, che ne so io. Ha fatto un gesto, cari ascoltatori, che ha detto chiaro. Micichè, il candidato alla Sicilia che Zamparini appoggia, il signor Micichè, lezioni di sesso di Maurizio Zamparini. Devo fare la rubrica per forza. Micichè, vediamo se capisce il siciliano. Perché ho Montezemolo che mi chiama e fa lo scherzo telefonico davanti, mi chiama e mi fa: pronto la Repubblica, ma lei è amico di Dell'Utri, mi hanno detto, facendo cose. E dico: guardi, io con voi su questo argomento non ci parlo. No, mi deve parlare, mi fa, ed era lui, mente, lui che Montezemolo rompa amiche e mi fa lo scherzo telefonico. Perché io ho tutta una serie di relazioni. E qua Montezemolo rompela? Il mio amico Luca, no? No, rompela? Che ha detto? Facendo questi scherzi, rompela. L'ha capito questo passaggio, sì, no? Sì, la minchia. Rompe la minchia. Montezemolo. Lo mio amico conosce da tanto tempo. Sì, si conoscete? C'è un bellissimo aneddoto. Avete lo stesso stile, Una volta arrivo con Lotito, ospite mio. Sì. Arrivo con l'aereo del mio col gruppo. Col suo aereo privato. Giù a Roma. Il suo aereo privato. Sì, a Roma. Che è ricchissimo. E io e Lotito usciamo da Ciampino. Dal suo aereo privato. Usiamo Ciampino. Sì. E di fronte, laggiù in fondo, c'era Luca col povero Barbera, che è morto, che era il suo grandissimo amico, che mi vede da lontano e mi saluta e mi viene incontro. E gli dico a Claudio, lo tifo, no? Lo conosci? No? Allora andiamo vicini. Io vado, ciao Luca, ciao. Ecco, qui c'è lo tifo che tu conosci già, e lui mi fa: chi è costui? Questo è il solito Lotito, insomma, il solito millantatore di Lotito. Adesso mi querela. No, beh, è vero. Vabbè, ma però lui è uno, sul serio, io lo stimo come uno dei più bravi Luca presidenti. No, Lotito. Ma Montezemolo, perché non si candida? Perché fa sorte in tena? Adesso ormai ha deciso di non candidarsi. Perché ha paura. Ma dovrebbe candidarsi. Ci siamo sentiti un anno fa e io è una persona che stimo. Ma no, è troppo vecchio per candidarsi. Dovrebbe partorire nel suo movimento dei giovani. Lo so. E dovremmo tutti i movimenti, ecco, questo è un invito, a mettersi insieme. Io a quelli della Sicilia ho detto: avete sbagliato in questo momento qui tutti. Quello dei Forconi. Perché dovevate tutti mettervi insieme in un unico movimento per la Sicilia. Come si fa a mettere abbiamo quelli dei Forconi con Montezemolo? Quelli che i Forconi. Ma lo conosco benissimo Mariano, no? Sono stato con lui. Lui è anche padre Giuseppe, che è il suo mentore, e l'ho pregato di non candidarsi. Lui si è candidato da solo, perché poi vede questi movimenti. Però, sa perché non si mettono insieme? Sì. Perché l'egocentrismo, cioè la superbia, essere protagonisti loro, sì, e invece dovrebbero essere protagonisti per la gente, per gli italiani che non lo vogliono fare. Però per cambiare questo paese dobbiamo metterci d'accordo, quanto anche voi due. Faccia una promessa: lo Monaco resterà per quanto tempo? Lo Monaco l'altra volta ha fatto una promessa che ha visto. Lo Monaco è talmente bravo, sì, sia per la squadra, e lo vedrete. Sia, vabbè, questo lei lo dice sia, di tutti. Sia nel bilancio. Non è più credibile. Le faccio un aneddoto. Il Catania, con 40 milioni di fatturato all'anno, guadagna 5 milioni all'anno. Zamparini con 65 ne perdeva 10. Questo un po' adesso, cioè, lei è un disastro, lo Monaco invece no, perché io vado a a Palermo una volta ogni 15 giorni. L'Omonaco starà 12 euro al giorno sul pezzo. Quanto lo paga l'occhio, l'occhio quanti del... soldi gli dà l'Omonaco? 500.000 euro all'anno. 500.000 all'anno. L'occhio del padrone ingrassa le vacche. Ma è quello che paga, no, pagato di più? È quello che ha pagato più di tutti? No, no, no. Come dire, come manager, dico. Quasi. Sì, quasi. Quanto quasi. Male le fa ogni mese, ogni anno tirar fuori? Io penso che mi faccia tanto bene lui quando mi farà vedere un bilancio inattivo. Oppure se riesce a vendere... Il problema, ragazzi, non è quanto, ma anche il quanto mandato... la politica ti costa. Ma anche... È che non fanno niente. Se la politica guadagnasse tantissimo, anche il doppio, sì, e ci producessero tanto... Che noi invece tanto. Invece io oggi ho avuto mio cugino che... Che 30 anni, un mio cugino diretto, sì, sì, è venuto da me piangendo, diceva: Maurizio, mi vergogno, ma prestami qualcosa. Dico, perché dice: guarda, che siamo costretti a andare a rubare al supermarket per mangiare. Ma addirittura il cugino di questa è l'Italia, ragazzi. Il cugino, cugino di Zamparini. Mio cugino. E lei che ha fatto? È povero in canne, ha bisogno di andare al supermercato a rubare. Ma si è mangiato tutto, poveraccio. Non ho capito, è colpa sua. Non trova più lavoro. Ha detto: vai a lavorare. No, vai a lavorare, appunto, vai a scaricare i camion. Ti assumo io in una delle mie aziende. Ma quale? Se andiamo avanti così, le chiudiamo tutte anche noi. Ragazzi, il problema dell'Italia. Comunque, lei mi sembra che sia stufo di fare il presidente. Il presidente, mi dica la verità, è un po' stufo. Basta. No. Sì, no. È un po' stufo. Io penso che la mia immagine sia data solo dal calcio e che io sono invece un uomo generoso e bravo anche fuori dal calcio. È quello che sto facendo nel movimento e lo sto facendo veramente non per guadagnare. Ma in Parlamento si candida? In Parlamento no, assolutamente. Scusi un attimo, esistono i gay nel calcio, secondo lei? Gli omosessuali, non me ne sono mai accorto, ma secondo me, siccome esistono dappertutto... Non c'è mai stato un gay nella squadra del Palermo, possibile mai? Non lo so, no. Tutti non questi 10 anni, io non le hanno detto, quello è un giocatore omosessuale, c'è un giocatore omosessuale. Io ho un socio con me che è gay, che è una affabilissima. Vabbè, mica è un mica no, è un crimine. L'amico di famiglia di Palermo è gay. E chi è la famiglia gay di Palermo? Mica dobbiamo fare la caccia alle streghe. C'ha una bella boutique a Palermo in centro, amico di mia moglie. Noto omosessuale. Amico della Mariella Grasso, la moglie di Piero Grasso, come il procuratore capo. Lo conosciamo bene noi. Esiste il doping nel calcio? Io penso che sia esistito molto una volta. Ora? Chi lo faceva? C'è qualcuno che lo faceva in particolare? Me l'hanno raccontato i vecchi giocatori. Li davano 50 anni fa, 40 anni fa. Li davano, delle bombe. Adesso non c'è? No. Anche perché c'è una prevenzione giusta. Arrivano, prelevano il sangue. E la prevenzione serve moltissimo. Dobbiamo chiudere. Maurizio Zamparini, grazie. Chiamatemi ancora. Presto. Chi, scusi? Ah, Paolo Barnard. Sì, Paolo Barnard. Quello che dice che bisogna uscire dall'euro, che l'euro è tutto un disastro, eccetera. Zamparini l'ha contattato Paolo Barnard molto tempo fa. Non mi pare una cosa di importanza... storica, insomma, il contatto tra Paolo Barnard e Maurizio Zamparini, e poi successivamente fare la ponte tra Barnard e Beppe Grillo sarebbe una cosa bellissima, no? Ripeto, sì, d'accordo, ma si mettano d'accordo tra di loro, va benissimo. Insomma, lei dice che dovrebbe fare da ponte tra Barnard e Grillo, Paolo Barnard. Grazie Alessio. Emanuele D'Alecco, buonasera. Emanuele D'Alecco. Non richiamiamo. Non ci risponde. Alberto da Monza, buonasera. Sì, adesso richiamiamo. Possiamo anche riprovare a chiamare il Savoia Excelsior Palace di Trieste? Sì, intanto abbiamo Alberto da Monza, buonasera. Alberto? Ma perché non risponde? Cosa fa sta gente? Alberto? Andrea da Roma? Eccomi, sono eccoci qua. Dica un attimo. Ah, ecco. È il centralino dell'albergo. Benvenuti allo Star Hotel Savoia Excelsior Palace di Trieste. L'operatore le risponderà il prima possibile. Adesso risponde l'operatore. Adesso risponde l'operatore. Intanto parli, Andrea, non si preoccupi, vada. Allora che parlo a fare? Trieste, buonasera. Sì, buonasera. Buonasera, cerchiamo sempre Signorini. La segreteria, sì, dottor... Sì, attenda, grazie, per favore. Grazie. Dottor Signorini. Grazie. La musichetta, chissà dove è finita questo signorino. Vabbè, sarà a prendere l'aperitivo. Ma infatti non c'è, a prendere l'aperitivo. Sì, ce l'ho, però non è la stessa cosa, no? Lo facciamo chiamare dall'albergo? No. Tutto live, signori, qui da Trieste, in diretta. Non c'è inganno, come dicono alla stazione centrale quei simpatici signori che giocano con le carte. Non c'è trucco, non c'è inganno. L'asso vince, l'asso perde. Esistono ancora quelli che giocano con le carte. L'illegalità trionfante, come no? Pronto? Sì? Sì, mi dispiace, non è in stanza. Ma dov'è finito sto grazie, grazie mille, grazie, grazie. Richiamiamo noi, grazie. Andrea, allora, dica. Sì, niente, volevo appunto chiedere a Maurizio Zamparini che cosa si prova a gestire una squadra come il Palermo, come fa lui, che si vende tutti i giocatori e si mette in tasca tanti e tanti milioni di euro e poi parla dei giovani da proporre come il nuovo. Vabbè. Lui con i suoi degni amici, Cellino, Preziosi, Lotito, che ha citato prima, che è un assoluto primattore. Vabbè, non ce ne frega niente a noi del pallone. Grazie. Emanuele D'Alecco è tornato forse. Emanuele. Sì, sono tornato. Vada. Allora, io è più di una settimana che parlando con amici, eccetera, il leitmotiv di questo periodo è la situazione politica con tutti gli scandali che ci sono, eccetera. E particolarmente ieri sera si stava parlando e si parlava del caso della Minetti, che a giudicare da tutti è uno scandalo incomprensibile. Sì. Allora, che cos'è uno scandalo? Scusi, che cos'è uno scandalo? Perché non dovrebbe stare a risiedere nel posto dove sta. Benissimo, questo però lei sa che le elezioni in Lombardia ci sono state nel 2010, più di due anni fa, più di due anni fa. Lei penso. Ma io le dico anche un'altra cosa, non mi pare di aver mai votato per la Minetti, sinceramente. Pazienza, c'è tanta gente che non ha votato per la Minetti. Lei ci riferisce che non ha votato per la Minetti, io aggiungo chi se ne frega, però va bene. Cioè... sì, certo. E comunque si stava dicendo che per molti questo rappresenta uno scandalo, anche perché non si capisce come abbia fatto a rimanere lì, nonostante dite che qualcheduno l'abbia votata. E allora dico, andiamo, non so, un giorno di settimana prossima qualunque, oppure domenica, andiamo a Milano davanti al Palazzo della Regione, visto che è anche qua vicino, e protestiamo. Ne avessi trovato uno che vuole andare a protestare. E allora alla fine sa cosa adesso, c'è? Protestare contro la Minetti due anni dopo a scoppio ritardato mi sembra francamente esagerato. E poi scusi, passi il suo tempo per fare cose anche di cattivo gusto, cose due anni dopo. Un po' più produttive, un po' più, no, non protestare perché c'è la Minetti. Adesso francamente mi sembra troppo. David da Lucca, buonasera. David, ma perché non rispondo questa sera? Vado ai matti. David da Lucca, sì, pronto? Sì, dica. Pronto, buonasera, dottor Torciani. Senta, io volevo fare una considerazione su quello che lei ha detto ieri sera ad un ascoltatore che diceva che avrebbe voluto azzerare la classe politica. Lei giustamente ha detto che siamo un po' lo specchio di questa classe politica, giusto? Sì, sì. Allora? Io però le voglio dire questo per fare questo esempio. La signora Polverini ha detto che lei non avrebbe voluto dimettersi per rispetto a tutti quelli che gli hanno dato la preferenza, ma secondo lei gliel'avrebbero data sapendo tutto quello che succedeva alla Regione Lazio? Non ho capito. Cosa? Non è che uno vota sapendo che dopo si aumentano i soldi da 1 a 14 milioni, ma che considerazione è, David? No, non è una considerazione, è che siamo sì lo specchio, però lo specchio inganna in questo caso. Ma quale specchio? Io non so se lo specchio inganna, io dico semplicemente che non esiste, lo ripeto per la centesima volta, non è che esiste la società civile linda, pura, illibata, intonsa, e poi i politici cattivi alla Fiorito, perché Fiorito mantiene un sacco di gente, ci sono un sacco di prebende, ci sono un sacco di clientele, lavori, e quella è la società civile, amicizie, quella è anche la società civile, ha capito, sì o no? Sì, sì, però dottor Cruciani, secondo lei veramente tutti non sanno quello che succede? Rutelli non sa e Bossi non sa. Vabbè, questo è un altro discorso. Non è un altro discorso. Sa cosa le voglio dire? Che questi politici segua, navigano in un mare di merda e non sentono l'odore. È questo il problema, lo ha capito? Vabbè. Tutto intorno hanno questo. La merda è ovunque, non è, sì, ma non è solamente in Parlamento. La merda è anche intorno a lei, David. Può darsi pure che ce l'abbia un po' addosso la merda lei. Anch'io, per carità. È più grave se è in Parlamento, glielo assicuro. D'accordo, grazie. Dove andiamo? Dove andiamo? Dove andiamo? Andiamo a Monza. Sentiamo se Alberto ci risponde. Alberto, sì, sono. Sì, dica. Niente, la merda probabilmente ce l'abbiamo anche a Radio 24. Ah, fai quello niente, sicuro. Non è quello il problema. Sì, in che senso? Sì, ma non si butti giù, visto che ha telefonato. Ecco chi ha parlato. Allora ma viva, non si allora butti viva. Giù. Ecco, non si butti giù. Che, non si butti così giù. Su, coraggio, no, forza. No, figuri, sto su. Ecco, sì, sto sereno. Su. E dove no, sarebbe la merda Radio 24? Scusi, dove sarebbe la merda? Dove sarebbe la merda Radio 24? Appena parlato adesso. È in collegamento telefonico, questo signore che ha il telefono. Ah, signor Alberto. Il signor Alberto, si sta facendo l'autobiografia, prego. Vada, vada. Sì, riguarda Formigoni e la lobby Andrangheta. Sì. Visto che parliamo di lobby, Fiorito, eccetera. È ovvio che ognuno c'è dietro il suo carrozzone. Quindi, dove vogliamo andare a parare? Allora... Ognuno tira il suo carrozzone quando gli ma si che dà vuol dire ognuno tira il suo... Che vuol dire ognuno tira su il suo carrozzone? Mi spieghi questa frase? Ognuno tira su il suo carrozzone. No, non c'è da ridere, poverino, sta male, dai. Sì, comunque sta male, ha parlato lui, Sta male. Che sta voglio male. Dire che dietro Fiorito c'è tutto il carrozzone da mantenere, come ha detto carrozzone. Lei. Certo. Ma sì, vabbè, quello sì. E quindi... La zanzara capricciosa, la zanzara velenosa, la zanzara dispettosa, fa zazza. È la zanzara capricciosa, la zanzara velenosa. La zanzara dispettosa fa zanzara. Beh, ancora non mi avete detto, cari ascoltatori della Zanzara, se siete dalla parte di Renzi o di Marchionne. Certo, devo dire che in questo caso Marchionne l'ha fatta grossa, eh? Io vi ripeto, continuo a avere questo busto a casa del signor Marchionne, ogni tanto lucido. Però su Firenze, che bisogno c'era di fare quella battuta su Firenze, su Renzi? Qualcuno di una dice... volgarità inaudita. Beh, vabbè, sono di una violenza inaudita. Un uomo esagerare. Che paga allora, le tasse in Svizzera, peraltro. Nell'ordine, il signor Zeffirelli a questi microfoni ha detto: stupido, maleducato, io non ho mai avuto una Fiat, un poveretto che si copre di ridicolo. La signora Margherita Hack, residente a Trieste, ma fiorentina di nascita. Di nascita e di formazione, comunque di linguaggio, di cultura, eccetera, eccetera. Marchionne rozzo, ignorante. Grande imbecille, povera Fiat. Insomma, più di questo non lo so. Abbiamo chiamato a raccolta tutti i fiorentini del mondo contro Marchionne. Che manca soltanto Dante. Mandatemi Dante, siccome abbiamo un governatore qui, il governatore Friuli Venezia Giulia, che proprio vi presenterò. Mandatemi abbiamo la... degli applausi finti da mettere per no, il governatore. Non ci sono applausi finti. No, non ci sono applausi finti. Mandiamo la canzoncina, Radio Regina, la parodia, la meravigliosa parodia realizzata sul signor com'è, Zambetti. Amico, credo. Detto Mimmo, no, l'ho conosciuto. Amico, dicono di amico, insomma. Io l'ho conosciuto quando chiesto l'aiuto delle Endrine. Ma io l'ho conosciuto a lungo. 4.000 voti. Quando lavoravo in Lombardia lo vedevo, lo veniva spesso ospite. Mandatemi la canzoncina su. Possiamo andare da una cosca a comprare i voti. Lo sportello è qui vicino, stan facendo gli sconti. Saranno 50 euro a voto, lo vedi a un buon prezzo. Corri presto, vai Zambetti, siamo tutti con te. Eccoci qui con Renzo Tondo, governatore del Friuli Venezia Giulia. Applausi, buonasera. Applausi. Perché gli applausi finti? Ancora perché non voglio niente. Trasformare questa trasmissione in radio regime. Cioè, quando c'è il applauso, non mi sente. Quando c'è un applauso da solo. Quando c'è un potente di turno, secondo me, va fatta come Radio Saddam. Insomma. Bisogna trasformare questa Radio Tondo. Voglio trasformare. Ma tu lo fai apposta per dare pure una coltellata alle spalle, come al solito. Buonasera, buonasera. Eccomi qua, salve. Ci puoi elencare tondo anche qui i c'è l'Andrangheta. Anche qui c'è qualche assessore nei guai, no? Perché le regioni no, qui siamo tutti a posto, non c'è tutti, neanche, tutti. Lei può mettere la mano sul fuoco su tutti, la mano sul fuoco su tutti, perché l'Andrangheta va dove c'è ricchezza, qui non c'è anche perché, ma come no? No, anche perché ne ho pochi. Scherzi. Io ho ridotto la giunta, quindi già, vero, ho meno mani da mettere sul fuoco, cioè non c'è criminalità organizzata qui, no, questo è un altro discorso. Qui l'Andrangheta mafia, c'è no, l'Andrangheta no l'Andrangheta non c'è. Non c'è. Scusi un attimo, ha visto che oggi il suo collega Formigoni alla fine non si è dimesso? Però male, mi dicono che ha azzerato la giunta, no? Vabbè, sì, ha azzerato la giunta. Ma doveva dimettersi, lo dico la verità. Arrivati a questo punto, 14 persone inquisite, ogni giorno succede qualcosa. L'Andrangheta, questo che avrebbe comprato i voti, insomma. Se, no, però dica, mi pare... La dica tutta. Allora, secondo me... Berlusconi. Lapsus. Anche quello qualche inchiesta ce l'ha, fatto, piccolo lapsus. Me l'avete fatto bollire qualche mese fa e quindi, no, secondo me Formigoni fa bene a non dimettersi adesso, fa bene a cambiare la giunta e a programmare le elezioni in primavera, perché lasciare adesso... Però lui dice che vuole continuare fino alla scadenza. Non può. Questo dice lui. Però la realtà... Secondo me, allora, se io fossi al suo posto, sì, in queste condizioni, sì, io rifarei la giunta nuova, con persone completamente nuove, sì, individuerei 4-5 cose da fare da qui alle elezioni e andrei a votare... Prima del... Andrei a votare con le politiche. Con le politiche. Scusi un attimo, però, Tondo, adesso in Italia però c'è questa cattiva abitudine, non si dimette nessuno, mai, ma nemmeno mai. Quando c'è l'Andrangheta coinvolta, è vero che sono indagini, eccetera, però... eccetera, l'Andrangheta coinvolta con le istituzioni, cioè con un assessore... Inaudita. se nemmeno in questo caso uno si dimette. Ma quando... la casa per giunta, che sembra ha messo la figlia di un boss, non si è capito dove. Voleva far ottenere una casa fatto assumere a tempo interinale una signora. Vabbè, però dobbiamo distinguere tra chi le colpe e chi no. La Polverini, per esempio, si è dimessa senza avere una responsabilità diretta. Ma qui parliamo di 'Ndrangheta. Vabbè, qui è una questione politica, cioè, non è responsabilità cosa diretta. Cosa c'è di più grande, di più clamoroso dell''Ndrangheta? Cioè, voglio dire, questa è una roba pazzesca, no? No, ho capito, però quali accuse più grandi? È contento che Berlusconi sia fatto da parte? Certo. Ah, molto contento. No, sono contento. È una buona notizia. È una buona notizia per tutti e anche per lui. Io credo che Berlusconi abbia fatto un atto politico questa volta. Perché diciamocela tutta, sto però, signore. Un atto politico in che senso? Politico serio, tanto vero. C'è una bella donna che era entrata. Che facciamo entrare? È una sua amica? È una sua amica? Magari. Prego, una signora bionda. Una signora bionda entra, poi la potete sentire, no, cioè, la potete sentire i passi, magari anche facciamo un po'. Sentire i tacchi della signora. Aspetta, vediamo se riusciamo. No. Ecco, no, voi che siete alla radio, tanti che siete alla radio non potete vedere, è entrata una bella ragazza, ben vestita, e Cruciani è impazzita. No, non sono impazzito, ho detto entri pure. Non la potete vedere, una ragazza bionda anche con una certa. Ma chi è? Bella, no? Tondo, no? Le piacciono le donne? Sì, mancherebbe altro. La gnocca le piace? Come mi piace molto. Moltissimo. Moltissimo. Forse un po' troppo. No, beh, adesso non esageriamo. Cioè, non fatemi... come Berlusconi, comunque. Come Berlusconi, la è inarrivabile. È inarrivabile. Come dice lui, c'è stato il fordismo. Con grano salis. Ecco, io dico che lei Berlusconi... è sposato, fidanzato, signor Tondo? Io sono sposato, separato, fidanzato, con tre figli. Comunque, me la cavo. Una vita complicata. Ma no, perché? No. Arbore ci accompagna 800 24 00 24. Non vorrei finire questa sera la trasmissione, lo sai, Valenzo? Possiamo anche proseguire e no, ma dobbiamo ritirare il premio. Ritirare il premio Cuffie d'Oro, grande premio. Fatemi quel numero di telefono, un sacco di premi. Fatemi quel numero di telefono che vi ho dato. Poi proseguiamo chiamare, fatemi quel numero di telefono. Intanto il signor Tondo, qui il governatore della regione. Io ho un fratello che sta cercando lavoro. Possiamo un attimo vedere di. Va bene, parliamo dopo, con calma. Siamo in diretta. Ah, in diretta era? Sì, okay. In diretta. Magari nel mio ristorante un cameriere, un lavapiatti si può fare. Pronto? Buonasera, rispondo per il dottore, forse signorini, con chi parlo? Sì, buonasera, è la segreteria. Signorini. La segreteria? Arcore. Scusi, non la capisco, mi dica. È la segreteria di Arcore. La segreteria di Arcore? C'è il presidente, sì, possiamo passarlo? Pronto? Qui è Arcore, pronto? Niente, non risponde nessuno, dai su. Panfilo da Chieti, buonasera. Panfilo da Chieti, signor Panfilo da Chieti. Buonasera, buonasera. Buonasera. Io volevo candidarmi con Zamparino per Zamparini con la I. Che Zamparino? Zamparini. Zamparini, va bene, in ogni modo ci siamo capiti. Ma adesso candidarsi con Zamparini, adesso francamente mi sembra sì, un po' troppo. Per l'Abruzzo. Detto con tutto rispetto. Cioè, le vuole entrare nel Movimento per la Gente? Segna un posto nome, un attimo. Come si chiama, scusi? Io passiamo a Zamparini. Come si chiama? Come si chiama? Perché... Io mi chiamo Panfilo. Panfilo, benissimo. Panfilo. Adesso, la segreteria prende il nome e poi lo passa no, a Zamparini. No, Panfilo è un nome d'arte, sarà il nome vero. No, no, no, no, il nome di battesimo. Scusa, ma come greco, fa uno a chiamarsi Panfilo? Come vabbè, fa uno a chiamarsi Panfilo? Che ne so io, mica me lo so scelto se io. Se la prenda, scusi, adesso, detto con tutto rispetto, magari poi si passa. No, volevo aggiungere, adesso, a prescindere dalla candidatura che volevo avanzare, di Zamparini. Volevo aggiungere... Candidatura a cosa? Cioè, non c'è nulla in ballo. Non c'è nulla in ballo, diciamo nulla. Vabbè, insomma, lei vuole iscriversi al Movimento di Zamparini, la mettiamo in contatto con Zamparini, non si preoccupi. Ecco, ma posso aggiungere un'altra cosa? Però si sbrighi. Io la sento malissimo, è quello il problema, non sento quello che lei vabbè, dice. Allora la chiamiamo dopo. Tondo, io voglio capire una cosa, ma lei si presenterà alle prossime elezioni che ci saranno nel 2013 del Friuli Venezia Giulia con il nome del PDL? Perché qui un sacco di gente dice no, basta, perché porta sfiga, ormai è una sorta di... no. Beh, questa è una bella domanda. Io sto pensando di fare una cosa per Tondo, non per il PDL. Senza la lista del PDL. Perché la danneggia il nome PDL un po'. Un po' la danneggia. Beh, insomma, non è che sia un gran momento, no? dice questo è buono. Cioè dice, se metto il nome PDL un po' mi danneggia, un po'. Quindi è meglio fare Tondo presidente, questo è... Il popolo del Friuli Venezia Giulia per Tondo. Per Tondo, vabbè, una cosa PDL, in piccolo, in corpo 9. No, nemmeno. Non ci sarà più poi nel 2013 il PDL, no, ci sarà un'altra cosa. Chissà cosa succede. Però non voglio il nome del PDL, questo si può dire. Questo è evidente. Evidente. Ci parleremo. Cioè, quando lei sente PDL fa le corna, ovviamente. Ma non necessariamente, io vinco lo stesso. Vabbè, adesso questo vinco però, lo stesso. Beh, insomma, perché l'avversario è povero. È come quello della fedeltà, no? Beh, Scusi Tondo, ma però la Serracchiani è un bel avversario, donna, certo, giovane, nei sondaggi siete lì, più o meno. Vabbè, ma anche i sondaggi manca contro Ivi 5 anni fa mi davano assolutamente perdente. Va bene. Io dei sondaggi non mi fido, io ho più fiuto. Sì, però sì. Lei è giovane, la Serracchiani. No? Certo. Giovane, donna. Sono mica vecchissimo io. No, però, ho 15 anni. Giovane, donna, di sinistra, del Partito Democratico. Sta uscendo la tua amica, Parenzo. Rimane mia amica. La signorina, no. Ah, rimane, no, rimane lì. Rimane. Perché rimane. Non candidiamo lei? Sì, non so, la candidi lei. No, ma signor Tondo, adesso... Lei ha qualche Minetti in lista, per caso? No. In Friuli non esistono Minetti, possiamo dire. Qui non in Consiglio regionale, almeno. Sì. No, il Consiglio... Perché esistono Minetti da altre parti. Da qualche altra parte. Che adesso... Perché è stata candidata la Minetti? Cioè, la vera, oltre che un igienista dentale, in regione serve avere un igienista dentale, ma la ragione ultima per la quale qualcuno ha scelto di lo dica chiaramente anche lei. Qual è, signor Tondo? Qual è? Un assessore della regione Veneto, signora Donazzan, sì, la conosce, sì, signora Donazzan. Sì, certo. Lo ha detto esplicitamente, una delle poche. È stata candidata per responsabilità, anzi la responsabilità della candidatura di Minetti è del presidente Berlusconi. Tondo, ma certo, di chi no? Ma perché? Cioè, è stata una... era simpatica. Ma no, Tondo, come gli era simpatica? Su. Vabbè, l'ha messa nel listino, ha detto c'era un posto libero, mettiamo. Ma lei come la considera la signora Serracchiani? Mi dica. Ecco. Una friulana doc, innanzitutto, no? Ma doc non mi pare tanto, mi pare no, che sia nata a Roma, no? È nata a Roma, cioè. Sì. È nata a Roma nel 70. Ma sì. Non è un problema questo, è un problema no. Beh, però intanto l'ha detto. Intanto l'ha detto. È romana più che friulana. È romana. Trapiantata in Friuli. Questo bisogna specificarlo. Sì. Bisogna specificarlo. Cioè, per i friulani è importante saperlo, no? Penso proprio di sì. I friulani devono sapere che la Serracchiani è romana. Non è friulana. Dunque, non è molto... Vive qui, lavora qui, però non è friulana. Non è friulana. Ma soprattutto, secondo me, non conosce bene... una straniera, quasi. Lei lo dice come fosse una straniera, quasi. Non conosce bene la nostra realtà. Non interpreta l'humus e il cuore del Friuli. Vabbè, ma questa è la campagna elettorale, mancano ancora mesi. Se no, cosa vi uso a fare? No, che lei non deve usare noi, siamo noi che usiamo lei. Poi è vero che c'è uno scambio. Io ci provo. Lei ci prova. Scusate, però torniamo alla questione di Berlusconi. Lei dice, va bene, ma adesso che fine deve fare sto Berlusconi? Le lascio tre scelte, Giardinetti, nonno, nipoti, però anche da solo. Fondazione, una specie di fondazione del centrodestra, certo, eccetera, oppure che ne so, stabili in Russia insieme a Putin. Ma no, nessuna delle tre. Come nessuna delle tre? Perché non si può essere la quarta? Altre, dice, la quarta, quale potrebbe essere? Beh, nuotare nel lago dei Cigni, lì al Palazzo dei Cigni. No, io l'altro giorno ho fatto una battuta, ho detto che quando mio papà mi passò l'albergo, io faccio il ristoratore, e mi disse arrangiati. Io gli dissi, sì, però papà tu rimani qui vicino a noi, occupati un po' del rapporto con i clienti, eccetera. Ecco, Berlusconi rimanga vicino a noi e ci lasci fare. Cioè rimanga in un angolino? Magari con che ruolo? Col ruolo di una persona a cui ci si rivolge ogni tanto per chiedere consigli. Come un vecchio nonno, insomma, come un vecchio saggio. Saggio. Come grande puffo, deve avere il ruolo di grande puffo, sostanzialmente. pieno di puffette ogni tanto, perché è pieno di puffette, però ci deve L'importante essere... che sia saggio. Però scusi, è vero che le donne l'hanno rovinato un po'? Certo, bene non gli hanno fatto. Bene non gli hanno fatto. No. Troppe. Beato lui che si è riuscito a permettere. No, vedi, però quella roba lì. A parte credo che il Bunga Bunga abbia avuto una funzione assolutamente negativa su tutto. Ma cos'è? Non ho mai sentito questa cosa? Cos'è questo Bunga Bunga? Me lo spieghi lei? Ma non lo sa nemmeno Bunga Bunga. Glielo racconto dopo. Bunga Bunga, che vuole che sappia? Una persona seria, Tondo. So che lei, presidente Tondo, che è molto simpatico tra l'altro, e lei è molto laico. So che è molto laico. È a favore dell'eutanasia lei sostanzialmente. No. Eutanasia, no. Posizione più delicata, cioè io sono a favore della libertà di scelta della persona. E questo lei ha appoggiato il papa di Luan Englaro, c'è una cosa diversa. Cioè, però lei, per esempio, si spinga oltre se vuole, esatto. Naturalmente. Non è proprio a favore se uno può scegliere di morire, secondo lei? Sì, secondo me sì. Deve avere il diritto, e dunque è a favore dell'eutanasia attiva. No, calma. Dipende determinate. Cioè, io ritengo che ci debba essere una zona grigia dove la persona è libera di scegliere con le persone che gli stanno vicino, che sono i suoi familiari, il suo medico per chi crede, il prete, le persone vicine. E questa libertà deve essere consentita. Messa in pratica. È la famosa eutanasia. Se poi uno deve decidere di poter morire suicidandosi, non so. No, certo, è l'eutanasia. Cioè, lei accompagnerebbe se un suo grandissimo amico, un suo grande fosse gravemente malato e chiedesse, Tondo, accompagnami a morire, lei l'accompagnerebbe? Io non avrei la forza di farlo. Ma lo accompagnerebbe all'estero per morire in questi centri che sono questo non lo so, però non mi sentirei di giudicare la sua scelta e di lasciargliela liberamente di fare. Poi chiedere a me di accompagnare accompagnarlo mi sembra francamente una cosa che dovrei rivivere in quel momento, secondo la persona che ci potrebbe essere. Sì. Non lo escludo. Nella ma sua regione ammetterebbe, se fosse di competenza regionale, la scelta, l'eutanasia nella sua regione? No. Non cioè lo, la libera scelta. La libera scelta di abortire. Non, lo, non, non vorrei legificarlo. Vorrei lasciarlo lì fuori dalla legge. Questo è vero. Nella, anch'io sono nell'area della scelta della persona. Sì. Non legifererei su questo. Le droghe le legalizziamo qui. Quanto le ha fatto un po' schifo il suo partito, le posizioni che ha preso su Eluana Englaro? Sacconi, ma non posizione, beh, Quagliariello, non l'ho condivisa. La Rocella. Però le ha fatto un po'... Mi è sembrata eccessivamente viziata da... Troppo dietro ai preti, sì, la dico in maniera un po' papale così. Non credo, perché... PDL è troppo dietro al Vaticano, dietro. No, non è questo. Io devo dire che quando mi sono trovato con questa scelta, che non era certamente facilissima, eccetera, perché comunque è una scelta difficile, devo dire che non ho mai ricevuto da parte di nessuna gerarchia, nemmeno che gerarchia ecclesiastica, pressioni. Quindi non posso dire che sono stati dietro ai preti, sono scelte autonome. Ho trovato molti preti che... capivano la libertà della situazione. Senta, ma un'ultima cosa, ma Berlusconi, cioè il PDL, di chi si deve liberare? Quello che sarà? Dei colonnelli, di tutta questa classe dirigente, i vari Gasparri, la Russa? Beh, insomma... Non faccia il diplomatico. Chi vorrebbe rottamare? Che ci debba essere una rottamazione di una buona parte del gruppo dirigente. Lo sta facendo Berlusconi, che ha avuto il coraggio di dimettersi senza essere sfiduciato. Ho capito, però si appoggiava a quelli. Di appoggiare a Monti. Adesso gli fanno schifo, sì. Ma lo sai che cosa ha detto Berlusconi? Ha detto una frase pazzesca. Cioè, il migliore dei nostri alla rogna. Il migliore dei nostri alla rogna. Ma non so se è così. È così. Un virgolettato. Vabbè, adesso i virgolettati regionali li conosciamo. Però il migliore dei nostri alla rogna. È vero? Lei condivide o no? No, non condivido. Io mi sento uno che non ha la rogna. Ho capito, però ci sono molti che hanno la rogna o no nel PDL? A livello di inchieste, di guai, eccetera. C'è una bella pulizia da fare. Io ho applaudito Alfano quando ha detto bisogna fare la pulizia. Ma il primo, facciamo i nomi. Uno che bisogna subito. Cosentino, subito. Che ne so. No, i nomi... Renato Rosso, Roberto Rosso, quello del Piemonte. Era Forza Italia, PDL, poi FLI e poi è tornato. Poi è tornato per fare sottosegretario, poi ha denunciato il suo amico. Quello ha raccontato un fatto che gli ha dato notizie di reato, poi ha fatto benissimo a denunziare tutto. Vabbè, benissimo. Quel signore lì è venuto qui a gestire la campagna elettorale e ha fatto solo guai. Chi? Poi Rosso? Rosso, sì. Campagna elettorale di chi? Di 10 anni fa, contro Illich. Ah, 10 anni fa. Vecchio. No, ma per dire che quello è il tipo di personaggio che vuole togliermi dai piedi. I vostri rimborsi in regione come sono? Sono... Andiamo. I vostri gruppi consigliari quanto quanti soldi pigliano? Quanti soldi pigliano? Non faccio quella Polverini, non sapevo, non so il quanto. Allora, tutto il consiglio regionale, compreso i dipendenti, mi pare costa 3 milioni. 3 milioni? Sì. Renzo Tondo, che... Ronza un po' di qua, poi ronza un po' di là. Ma perché non mi mettete la canzoncina su Zambetti, là, come si chiama? Parenzo legge Umberto Saba in diretta da Trieste. Eleviamo un po' il livello, eleviamo. Io sono come quella foglia, guarda, sul nudo ramo che un prodigio ancora tiene attaccata. Negami dunque. Questa è impazzita. Non ne sia la tristata, la bella età che un'ansia ti colora e per me a slanci infancili s'attarda. Dimmi tu addio, se a me a dirlo non riesce. Morire è nulla, perderti è difficile. Umberto Saba. Ci siamo a Trieste, adesso leggiamo ad esempio Claudio Magris. Ma no, basta. Eleviamo un po', non è possibile invitare sempre mostri. A comprare i voti, lo sportello è qui vicino, stanno facendo gli sconti, saranno 50 euro a voto, lo vedi a un buon prezzo. Questo è geniale però, ne abbiamo prodotta un'altra su Formigone direttamente, che vi proporremo domani. Esclusiva? Già pronta? Sì, è sempre in esclusiva, però in esclusiva è il modo di dire. Sì, oggi questo è bene. Sì. Federico da Milano, buonasera Federico. Pronto, buonasera, mi sentite? Vada. Sì, sì, sì. Fino a prova contraria siamo qui. Benissimo. Pronto, sì, però lei... Sì, lei ha tempi molto radiofonici, vedo, faccia tutto con calma. Mi pare un po' spento questa sera, come dire. Allora, io telefono soltanto per dire questo. Sì. Tra Laminetti e Zampetti... Voto Laminetti, come avete detto voi, meglio le cosce che le cosche. Meglio le cosce che le cosche. Vabbè, questa non è male, però questa si può accettare. Meglio le cosce che le cosche. Beh, questo sicuro. Diciamo, uno potrebbe anche scegliere in maniera diversa. Le cosce uno potrebbe scegliere nel privato. Cioè, non è necessario che la signora Minetti calchi ancora, no, i però se la scelte tra quelle due robe là, è certamente più sana che Zampetti, Fusi... Bel sito e compagna fiorita, compagna varia. Ma io voglio dire, però adesso tra questi cinque qui voto la Minetti. Cioè, ma questo è scontato. Adesso più ci ripenso, più però mi incazzo veramente. Su che cosa? Cioè Formigoni che dice vado avanti, adesso a zero la giunta. Sì. Ma tutto quello che oggi ha fatto, fino Zampetti fino ad oggi ha governato come assessore alla casa, no? Sì. Allora tutto quello che ha fatto fino ad oggi Zampetti, se è vero che è legato alle i voti e basta. Se è vero che, che comunque questi danno ma i voti perché? Ma stai sfondando perché la porta aperta. Perché la voti? Ma come sfondi una porta perché aperta? È buona, non credo. Allora tutto quello che è stato fatto fino ad oggi da Zampetti dovrà essere preso in considerazione dal signor Formigoni o no? O basta azzerare una giunta? Francesco Barbato, buonasera. Buonasera a lei, Cruciani. Buonasera. Come andiamo? A mitico. Ciao, Barbato. Mitico, Barbato. Ciao, sono un altro moderato. Scusa, Barbato, perché sempre moderato? No, perché è aggressivo? Perché dice. Perché c'è bisogno in questa fase di abbassare i toni. Ma io non voglio abbassare i toni. Leggere, non bisogna mai abbassare i toni. Di leggere Claudio Magris, cioè di rendere questo spazio anche uno spazio culturale. Di ma io non ci penso nemmeno lontanamente. Sei pazzo. Allora, Barbato. Facciamo un tentativo, caro Francesco. Il tentativo è quello di chiamare il signor Maruccio. Tu conosci il signor Maruccio, quel tizio che pare si sia intascato i soldi del tuo partito, anzi soldi nostri, quello transitati per l'Italia dei Valori, transitati per l'Italia dei Valori, cosa vergognosa, dillo apertamente, erano troppi soldi che anche voi avete incassato nel Lazio, dimmelo. No, io ti dico innanzitutto che mi capita di fare spesso il bastian contrario perché... Ma adesso non fare il diplomatico, avete preso troppi soldi anche voi nel Lazio. Anzi, ti posso dire che sono stato l'unico deputato che il mese scorso, rispetto ai 630 della Camera, ha votato contro il nuovo regolamento che disciplina il finanziamento ai gruppi parlamentari. Vabbè, ma senti, adesso non andare nel tecnicismo, ce ne fottiamo di queste cose. No, che tecnicismo? Qua sono Barbato, io voglio sapere una cosa. Erano troppi soldi che sono stati dati al Consiglio regionale del Lazio, avallati anche dall'Italia dei Valori, sì o no? Per questa ragione ho votato contro il finanziamento ai gruppi parlamentari alla Camera, perché hai votato contro, politici hanno già conosci soldi, Maruccio? Conosci poi, Maruccio? Senza rendicontazione e poi in modo ipocrita continuano a prendere e prendono sempre di più, perché parlando di sempre dei soldi dei gruppi parlamentari alla Camera dove... Ma io sto parlando della Regione Lazio, conosci Maruccio, sì o no? Sì o no? Sì, Maruccio l'ho visto durante i congressi, durante è stato l'avvocato di Di Pietro, è stato l'avvocato di Di Pietro, un fan prodigio delle parole. Proviamo a chiamarlo e digliene quattro anche tu, Digliene quattro anche tu, te la senti? No, guarda, io le dico a tutti e specialmente a chi in Italia dei Valori, che è un partito diverso dagli altri perché non aspetta diverso, le sentenze e le condanne. Questo infatti, è vero, l'avete Di Pietro, proprio ieri a Maruccio ha detto hai tre ore per andartene. Ecco, un attimo. Non ci nascondiamo dietro una sentenza fermati, che arrivino magistrati. Placati. Barbato, quando lo accendi... Senti come squilla. Magari sta ascoltando, non risponderà mai, sta ascoltando la radio, vede te squillare. Non risponderà mai. Ha messo la vibrazione. È un giorno però. Che ha messo la vibrazione. È un giorno che non risponde. È chiaro che non risponde, no? È chiaro che non risponde. Vabbè, non lasciamogli risponde, un messaggio in segreteria? Può darsi. Forse vale la pena. Ma non scatta nemmeno la segreteria. Vediamo. Però dimmi una cosa, Barbato, com'è possibile che ogni tanto spuntino fuori dall'Italia dei Valori Scilipoti? Ma dai. Come si chiama? Razzi, De Gregorio, Razzi. Adesso addirittura l'avvocato di Di Pietro. Di qualcosa a Di Pietro. Forse devi scegliere meglio i deputati. Digliela qualcosa. No, io con grande chiarezza e trasparenza, come sempre. Ma sembra un democristiano. Grande chiarezza e trasparenza. Mi demita. Se mi parla con Demita, non con, dai, con Barbato. Su, Barbato. Ascoltami, fammi dire, perché se non mi vuoi far dire, non mi fai dire che esiste un problema tra le due diverse facce di Italia dei Valori, perché una cosa è l'Italia dei Valori che a livello nazionale io, Di Pietro, Zazzera, Messina, tanti altri parlamentari portiamo avanti. Io oggi tra il lavoro dell'Aula e delle commissioni mi sono battuto per 271 lavoratori. Vogliamo dire qualcosa, ma chi se ne frega? Vogliamo dire qualcosa a Di Pietro sul fatto che si è scelto un collaboratore sbagliato, sì o no? Un'altra faccia di Italia dei Valori che a livello locale non sempre ha la stessa faccia non di Italia dei Valori a ti fai moderato questa sera nazionale. Barbato, stasera fai moderato e mi hai rotto le scatole. Mauro da Roma, no, ma buonasera. Che moderato? Se ti sto dicendo come stanno le cose. Ma che e noi stanno almeno le cose? Abbiamo il coraggio di dire come stanno le cose. Chi è? Allora guarda, dammi un giudizio su sto Maruccio. Maruccio penso che ha fatto non male, ma malissimo. Questo ci mancherebbe altro, scusa. Allora, sai, prima del giudicato penale Sì. Allora, se tu hai un finanziamento sei troppo pubblico e lo fai finire su conti correnti privati, esatto, allora tu non sei collegato alla morale e all'etica. Ma perché per noi esiste questo tipo di rapporto prima ancora che del giudizio penale o del controllo del magistrato. Lo vogliamo magistrato. Cacciare dall'Italia dei Valori, sì o no? Dall'Italia dei Valori. Come? Dall'Italia dei Valori lo vogliamo cacciare questo signor Maruccio, avvocato allora, di Di Pietro? No? Cacciato ed è stato commissariata la sezione, o meglio il partito in Lazio. Benissimo, grazie Barbato, grazie Mauro. Di fare un'altra cosa, di andare ancora oltre, perché se abbiamo un partito inadeguato nelle regioni a livello locale, facesse la stessa cosa domani per la Campania, per la Lombardia, perché azzerare l'Italia dei Valori, azzerare l'Italia dei Valori dappertutto, abbassare la Claire, via, chiudere tutto. Come l'Italia dei Valori che a livello nazionale con Di Pietro, con me e con tanti altri parlamentari portiamo avanti, perché siamo solo noi a portare avanti le battaglie per la legalità, per la giustizia. Ciao, grazie Mauro da Roma. Mauro da Roma, grazie. Purtroppo sto entrando al lavoro a pochissimo tempo. Al lavoro a quest'ora che fa? Solo dire una cosa. Che mestiere fa lei, scusi? Faccio il medico, sono entrato in ospedale. Il medico. Dove in quale territorio opera lei? Sono all'ospedale San Pietro, via Cassia. Perché San Pietro, via Cassia. No, lo dico per Cruciani, che ha problemi alle emorroidi, magari. Ma non è vero che ho problemi alle emorroidi. No, no, lei ride, è un problema serissimo invece. Comunque. Ma non è vero, si può richiamare, il telefono ce l'ha. Grazie. Perché lei è specialista di queste cose? Sì, sì. No, mi occupo di medicina, ma anche di questo, insomma. Anche di quello, vabbè, buono a sapersi. Veramente vedi non soffro, che le soffre, perché poi mangi molto piccante. Comunque, adesso non voglio entrare nel merito, però. No, perché sono problemi tuoi. I pomodori, fa male l'acido dei pomodori, gli fa male. Allora? Sì. Allora, io sono solo 30 secondi, volevo dire, io simil cognoscitur, bravo. Com'è? Te lo ricorda? È un filosofo del 1500, non ricordo il nome. Vabbè, se noi continuiamo a giudicare gli altri in un certo modo, che la società civile è quella che magna, vuol dire che noi giudichiamo noi stessi così. Allora, non sì, bisogna infatti giustificare. Se uno di se stesso è un altro concetto... Sì. La società civile, la gente per bene, non questi che mangiano. Sì, ma, ci sono anche politici per bene, come esiste? No, io voglio solo dire una cosa. Se uno accetta questo giudizio, vuol dire che è il giudizio che ha di se stesso, non degli altri. Va bene, che questo filosofo capito. Proiettava la propria cosa sugli altri. No, veramente però, Wikipedia dice similia similibus solvuntum. Vabbè ragazzi, non andiamo oltre. Il riconoscimento degli altri attraverso se stessi. Sì, ma questo è vero, assolutamente. Alberto dalla provincia di Venezia, buonasera. Alberto. Pronto? Cruciani. Fare anche un po' di cultura. Sì. Buonasera. Volevo dirvi che voi suscitate in me e in molti italiani un problema. Voi siete dei bastardi odiosi, però non riusciamo a smettere di ascoltarvi, è una cosa terribile. Questo è buono. Cioè, voi tirate fuori come dal... Tirate fuori il peggio dai politici, ma senza nessuna finalità etica, perché voi riuscite a fare a dire ai politici le cose peggiori che stanno dentro di loro, ma non riuscite però a finalizzarlo a nessun tipo di scopo etico. È una cosa tremenda. No, lei ha ragione, perché io non ho nessun tipo di etica, non ho nessun tipo di scopo, come dire, rieducativo, non me ne frega assolutamente nulla, assolutamente zero. Anzi, non penso che chi fa questo mestiere, il conduttore radiofonico, il giornalista, l'intrattenitore, eccetera, eccetera, debba avere uno scopo. Beh. L'unico scopo, uno scopo, come dire, di educazione nei confronti degli altri. Cioè, uno fa il proprio mestiere sostanzialmente per se stesso, per la propria famiglia, per stare meglio, eccetera, eccetera. E qualcuno dovrebbe cominciare. Io sono un bravo cittadino, penso di essere un bravo cittadino semplicemente perché pago le tasse e perché sono in regola. Sì, siamo qui, la Zanzara, Radio 24, siamo alla fine quasi, in questa nostra puntata da Trieste, Luigi da Perugia. Buonasera, Luigi. Sì, buonasera Cruciani, buonasera pure a David. Innanzitutto voglio dire che siete grandi, siete dei buoni picconatori e martellatori di questa politica corrotta. Però io volevo intervenire riguardo alla mente. La condannano perché secondo me è una bella donna e il Parlamento, i nostri palazzi hanno bisogno di essere sfrattati dai Matusalemme. Io faccio il camionista, ti dico questo perché giro l'Italia, la faccio tutta, faccio 5.000 km a settimana. La pulizia va fatta prima nelle piccole aziende e poi a salire sopra. Vabbè, ho capito, ma che vuol dire? Sì, la pulizia è troppo generico. Che significa la pulizia va fatta... bisogna iniziare dalle piccole aziende? Non ho capito bene. Ci sono ci sono le persone scorrette, ci sono i delinquenti, sì, anche nelle piccole aziende? Sì, vabbè, ho capito. Bisogna controllare, però secondo me è inutile prendersela con la bellezza, perché c'è bisogno di questi imparamenti. Qui noi non ce la pigliamo con la bellezza, noi esaltiamo la bellezza, figuriamoci. No, appunto questo, allora parecchie persone... Ho capito, però la bellezza, non è che solo per la bellezza si entra nell'istituzione. No, no, assolutamente, io non la reputo un'oca, assolutamente, perché ce ne stanno parecchi che... Vabbè. Attualmente Luigi, insomma, la ringrazio, buon viaggio, faccia buon viaggio col suo camion. Marco da Pistoia, buonasera. Molti camionisti, eccolo, mi sento molto sgarbi stasera. Paolina, dolce Paolina, raggio di sole entrato nella mia vita improvviso, chi sei che appena ti conosco e tremo se mi sei presso? Tu, a cui ieri ancora il suo nome chiedevo, signorina, e tu alzando su me gli occhi di sogno rispondevi, Paolina, Paolina, frutto natio, fatta di cose le più aeree insieme le più terrene, nata ove solo nascere potevi, nella città benedetta ove nacque Umberto Saba, triestino, Paolina. Vabbè. No, ma come vabbè? Cioè, questo media va usato anche per diffondere la cultura, non solo per far sentire quel camionista che ogni volta chiama ci insulta, coglione, Federico, no, non è... Marco, che dice Marco, quello vada, lì? Marco. Quello lì che... Introduciamo bellezza. Cioè, tu vuoi sapere, per esempio, perché se è vero che Corona a questo video in cui... No, ma io credo che sia utile... trombava con la signora Belen Rodriguez. Ma no, credo che sia vuoi utile sapere o no? Allora, non lo usare chiamare. Questi ultimi minuti no. Per ricordare Saba, ad esempio. No, la coscienza di Zeno, Italo-Svevo. Fammi sentire Marco, fammi sentire. Meno male, meno male. No, buonasera, praticamente io riguardo a Formigoni dico ce ne fossero di Formigoni, perché in politica in queste situazioni dobbiamo distinguere la questione penale da quella morale. I veri cazzi di Formigoni sono con Comunione e Liberazione, perché sotto l'aspetto morale sarà di sicuro messo fuori. Sotto l'aspetto penale poi si vedrà, se risulterà, allora si dovrà togliere allora? Da dov'è. Stesso discorso per la famosa festa che è venuta fuori nella regione Lazio, da quel consigliere la festa in maschera, che ma c'è di cosa da dire appunto di cosa stiamo parlando? Cioè questo con i suoi soldi, io se guadagnassi anch'io 15.000 euro al mese le farei anch'io le feste. Quelli da condannare sono quelli che usano i soldi pubblici. Se io guadagno 20.000 euro al mese, no, ma questo l'abbiamo detto, questo l'abbiamo detto, se quella festa lì è stata pagata, come dice Fiorito, De Romanis smentisce, nega, con i soldi pubblici è una cosa. Se quella festa lì è stata pagata con i soldi dei Romanis, chi se ne frega, ognuno organizza le feste con la testa di maiale, con la faccia, perché tante feste organizzate da persone che sembrano irreprensibili sono delle feste terribili dove succedono di tutti i colori, diciamo la verità. Sergio da Napoli, vada, Sergio. Ciao, buonasera Cruciani, grandissima trasmissione. Due cose importanti, volevo parlare un attimo di Marchionne in questa serata di filosofia e di poesia lì di Valenzo. No, ma che serata di filosofia? Qui abbiamo avuto Zamparini che ci ha raccontato che tromba col Cialis, altro che serata di filosofia. Forse perché non gli... vabbè, comunque è un problema suo. Volevo dire, al di là di tutto... Quello è felice e contento, che problema? Mi è sembrato molto felice al riguardo, guarda. Si fa quel che si può, no? Allora mi domandavo, Marchionne, chi ha detto in trasmissione che lui porta i soldi, cioè guadagna e paga le tasse in Svizzera? Sì, sicuramente pagherà in Svizzera, così come penso che pagherà anche in Italia, però è una figura che è stata, secondo me, un po' sottovalutata, considerato che alle spalle ci stanno quei gran signori degli Elkan, cioè, troppo criticata, dice lei, Dobbiamo chiudere. 30 secondi per Guido da Bari, ma 30 secondi, Guido. Ciao, buonasera a tutti. Allora, sono d'accordo con l'ascoltatore di prima, siete bastardissimi, ma mi piacete lo stesso. Solo una cosa, questi politici devono levare il culo dalla faccia nel dirci, io sono né di sinistra né di destra, sono apartitico politico, di dirci che Berlusconi ha fatto un gesto di responsabilità, ha capito che se ne doveva andare, ha fatto la figura del signore, dice ma me ne vado, faccio vedere che io sono bravo, eccetera, eccetera. Ormai non ci crede più nessuno, non ci crede più nessuno, la devono... Certo, mettere. Lei dice non ha fatto un gesto di responsabilità per il paese, lei ha detto non ha fatto un gesto di responsabilità per il paese, ha fatto un gesto perché gli conveniva così. E d'altra parte non ha torto Guido da Bari, ci sentiamo domani 18:30, ciao da Trieste, la Zanzara torna domani. La cacciara è, come dire, il circo che fate, non è da solo 24 ore, insomma, questo voglio dire.